Ho ricevuto incoraggiamenti e consigli per migliorare le mie riflessioni, perché tutti ne hanno ricavato un beneficio. Il lavoro non è stato fatto di getto. Non sarei neppure stato in grado di farlo. Le convinzioni che espongo sono il risultato di lunghe conversazioni private e pubbliche, cosicché, dopo molti anni, ho pensato di raccoglierle in un piccolo trattato. Il tema è così vasto che non ho la pretesa di dire l'ultima parola in merito. Anzi, da quanto mi è stato dato di leggere, credo che non sia tanto comune trovare un compendio esaustivo sulla coscienza. Perciò questo scritto ha lo scopo di stimolare altri più capaci di me nel proseguire a sondare questa meravigliosa parte dell'uomo che ci avvicina alle persone del Dio Trino. Soprattutto la mia preghiera è che questo lavoro e quello degli altri ci aiuti a condurre una vita tranquilla e quieta, in tutta pietà e dignità. 1 Timoteo 2, 2. Considerato che la convivenza è destinata nel tempo a diventare sempre più difficile. Correva l'anno 1521. Un uomo era solo di fronte all'imperatore e ad un'assemblea di principi, di ambasciatori, di magistrati e di cardinali. Solo di fronte a tutte le autorità civili e religiose riunite, gli venne intimato di ritrarsi dalle sue convinzioni. Dopo aver riflettuto un giorno, rispose: «Se non mi si dimostra con la scrittura che ho torto, non posso né voglio ritrarmi. La mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e non è bene agire contro la propria coscienza. Non posso altrimenti. Dio m'aiuti». Per un atto di coscienza, Lutero diede avvio a quella che divenne una delle due più grandi scissioni della storia del cattolicesimo, il protestantesimo. Il 4 agosto del 1988, Alberto Menervini venne sequestrato. I suoi rapitori si giustificarono con lui, dicendo: «Devi capire che la nostra famiglia è grande, tutti abbiamo il diritto di vivere. Noi non proviamo nessun piacere a sequestrare la gente. Ma cosa dobbiamo fare per vivere? Lo Stato non fa niente per aiutarci, posti di lavoro non se ne trovano, la terra di questi luoghi è arida e quello che ricaviamo non basta neppure a farci sopravvivere». Uno dei crimini più aberranti, rubare un uomo, viene giustificato con la coscienza. I cinturoni nazisti con il loro sinistro Gott mit uns, Dio con noi, usavano il nome di Dio per arare l'Europa con le bombe. Spesso la coscienza indica il bene e il male, facendo riferimento allo stesso universo teologico, agli stessi testi sacri. Gesù disse: «Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio». Giovanni 16, 2. Il mondo è pieno di persone convinte di eseguire il volere di Dio, mentre fanno esattamente il contrario. Parlare della coscienza significa affrontare uno degli argomenti più difficili che riguardano l'uomo. Per coscienza intendo quella parte di noi stessi che giudica le nostre e le altrui azioni dal punto di vista morale, o quelle profonde convinzioni radicate in noi su ciò che è bene e ciò che è male. Afferma lo scrittore e apologeta C.S. Lewis: «Tutti gli esseri umani della storia hanno sempre riconosciuto l'universalità della coscienza, un certo tipo di morale, cioè di fronte alla scelta fra determinate azioni si pongono il dilemma espresso dalle parole: dovrei o non dovrei. L'uomo è quindi dotato di coscienza fin dalla sua nascita, e questa caratteristica è forse quella che lo distingue di più da ogni altro essere vivente, sia del regno vegetale che animale. Infatti il bambino, prima ancora di ricevere un'educazione vera e propria, conosce il senso di colpa e quindi si vergogna, si nasconde o si scusa, come accadde nell'Eden ad Adamo ed Eva durante il periodo dell'innocenza, cioè prima di conoscere il bene ed il male. Giustamente disse Martin Luther King, ancora diciannovenne: «Il criminale più pericoloso può essere un uomo dotato di ragione, ma privo di morale». Spesso accade di rimanere scioccati constatando che alcuni commettono azioni scorrette o spietate con la più grande serenità di coscienza. Vi sono persone che mentono e rubano e si sentono nella loro coscienza sereni, persone che commettono omicidio e adulterio senza porsi problemi morali, persone che commettono stragi mettendo bombe o dichiarando guerra, ma non avvertono sensi di colpa né soffrono di insonnia a causa del rimorso. Un giorno un giovane si è fermato a Roma per ascoltare una riunione di evangelizzazione all'aperto. Poi ha chiesto: «Ma perché parlate tanto di peccato?» E senza attendere una risposta ha continuato dicendo: «Io ho raggiunto un tale equilibrio interiore che più niente riesce a turbarmi. Io potrei ammazzare mia madre o chiunque altro, anche in questo momento, senza provare il minimo rimorso. Il peccato non esiste!» Io stesso, un giorno, feci presente ad una donna che era stata con più uomini quanto fosse bassa la sua moralità. Ad un certo punto, constatando la sua sfrontatezza, le dissi che sarebbe stata capace di avere rapporti sessuali con suo padre, ed essa ammise che ciò era possibile. Poi, guardandola negli occhi, le dissi che avrebbe fatto la stessa cosa con suo figlio, ed essa, senza scomporsi, mi rispose: «Beh, diciamo che non mi farebbe schifo». A Kudepekela, una cittadina olandese di 8.000 abitanti, un gruppo di adulti ha violentato sistematicamente decine di bambini per un periodo di 6 settimane. Ogni anno il mondo intero ricorda la Shoah, l'inumanità con cui gli ebrei furono perseguitati e massacrati nella Seconda Guerra Mondiale. Si sa che la guerra non è umana, ma ci chiediamo come possa l'uomo o addirittura una nazione sterminare milioni di persone solo per un odio immotivato e pregiudiziale. Il 5 febbraio 1993 fu impiccato in America un uomo che aveva ucciso 3 bambini dopo averli torturati e seviziati. Egli, prima di morire, disse: «Voi dovete impiccarmi perché è l'unico modo per fermarmi. Altrimenti lo farò di nuovo». Nel mese di marzo del 1995 tutta l'Italia è rimasta allibita alla notizia che un bambino veniva seviziato dalla madre, dal padre, dalla nonna e da altri parenti. Ci domandiamo come tutto questo sia possibile. Purtroppo sono realtà e forse non abbiamo neppure citato i casi più orrendi. Poniamoci allora alcune domande. Esiste qualche cosa in questo mondo che possa essere considerato un punto di riferimento fermo per quello che riguarda la morale, a cui tutti possiamo guardare senza cadere nel soggettivismo? È possibile avere nozioni del bene e del male senza che queste siano etichette arbitrarie? La morale certo non può essere universalmente imposta, ma almeno è possibile far comprendere all'uomo quando sta compiendo azioni assurde o renderlo consapevole che sta sbagliando. C. È uno strumento di misura unico che permette di definire il peccato? Ebbene sì, vedremo come questo sia possibile, però saremo costretti a fare un certo percorso per arrivarci e a demolire certi presupposti, cercando di non dare nulla per scontato. Divideremo quindi questo studio sulla coscienza in 4 parti. 1. Che cos è che definisce la colpevolezza? 2. Le 3 leggi. 3. I limiti della coscienza. 4. I 4 strumenti della coscienza. 1. CHECOS e CHEDEFINISCELACOLPEVOLEZZA. Nel testo originale del Nuovo Testamento il termine coscienza è reso con suneidesis e si trova 32 volte. Di cui 20 nelle lettere di Paolo e 5 nella lettera agli Ebrei. Suneidesis è una parola greca composta e nel corso dei secoli ha assunto vari significati. Vuol dire fondamentalmente consapevolezza, l'atto cioè di rendersi conto di qualcosa. Noi infatti spesso diciamo: «Ho coscienza di ciò che dico», «Ho coscienza di ciò che faccio», oppure «Agisco in pura coscienza». Con questo parlare la persona intende dire che è pienamente consapevole di ciò che compie. Se ci pensiamo bene, il mondo, la società si basano e si confrontano con il prossimo continuamente sulla base della coscienza. Inconsciamente, ogni giorno noi parliamo, agiamo, ci relazioniamo con il prossimo sui parametri di ciò che noi riteniamo sia bene o male. La coscienza è il sismografo dell'esistenza umana. Una nazione fa guerra ad un'altra perché, in coscienza, ritiene giusto intervenire in questo modo. Il cittadino contesta pubblicamente perché secondo lui le leggi sono ingiuste. L'operaio fa sciopero perché ritiene il suo trattamento economico insufficiente o ingiusto. Due sposi divorziano perché in coscienza non possono sopportare cose che ritengono sbagliate. Dei fratelli litigano perché ritengono che l'eredità sia stata divisa ingiustamente. Alberto Menervini venne rapito perché, secondo i rapitori, lo Stato era ingiusto. Un figlio lascia la casa paterna perché considera i genitori incapaci di comprenderlo e troppo autoritari. I cristiani litigano perché sono convinti di aver subito dei torti. Il 16 gennaio del 1969, Jan Palach si diede fuoco in piazza San Venceslao per protesta contro il governo. Quando in una clinica americana, nell'ottobre 1984, un cuore di babuino di 7 mesi fu trapiantato in una bambina affetta da una grave carenza cardiaca, il fatto suscitò polemiche morali in tutto il mondo. William Carey, un grande missionario, si risposò un mese dopo la morte della moglie, ma fu disapprovato dalla missione che lo sosteneva perché ciò fu considerato un gesto indecente. Nel 1989 Salman Rushdie, scrittore di cittadinanza inglese, fu punito dall'Ayatollah Khomeini con la massima pena, la fatwa, la maledizione che segna la morte per chi ne è destinatario e l'indulgenza per chi la esegue, per aver scritto un romanzo, I versetti satanici, considerato offensivo per la religione islamica. La coscienza rimane quindi l'arbitro più o meno segreto di ogni nostra azione, di ogni nostro rapporto. Con il prossimo, d'ogni nostra parola, la ragione delle nostre liti e di certi suicidi. Vi sono persone che non riescono a vivere con un certo disonore e preferiscono la morte. Basta pensare a quell'americano che si è suicidato in diretta TV dopo aver dichiarato che era innocente. Così pure, nel 1992, alcuni politici italiani, accusati di aver ricevuto tangenti, hanno preferito il suicidio piuttosto che la vergogna. Morale e cultura. Abbiamo detto che la coscienza è la consapevolezza del valore morale del proprio operato. Infatti, per questo possiamo dire agisco con coscienza oppure posso affermare in coscienza. La coscienza viene sensibilizzata o impressionata, sia nel bene che nel male, da due strumenti principali, la morale o etica. E per alcuni studiosi la morale e l'etica sono sinonimi. La parola etica deriva dal greco ethos, che significa costume ed abitudine. La parola morale viene dal latino moralis e deriva da mos, cioè costume. Per etica o morale, quindi, si intende lo stile di vita di una persona, il suo comportamento, la sua condotta. La morale. La morale di una persona è un dato di fatto e deve essere stabilita. Se mancano le basi per stabilire la moralità, l'immorale non esiste. Ancora Lewis afferma in proposito: la morale va al di là di qualsiasi cosa che possa essere data dai fatti dell'esperienza. La morale di una persona si esprime in 3 settori: la morale civile, sociale o pubblica, la morale personale, la morale religiosa, cioè quella che deriva dalla religione. A. La morale civile o sociale è sempre in evoluzione, perciò cambia continuamente. Quello che oggi è giusto, domani è sbagliato, e viceversa. Vediamo alcuni esempi di come la morale sia relativa. Uccidere un uomo è severamente vietato, ma diventa obbligatorio in tempo di guerra. Gli omosessuali nel Medioevo e fino al 1700 venivano bruciati sui roghi assieme alle streghe. Solo alla fine del XX secolo hanno ottenuto notevoli risultati essendo inseriti e accettati dalla società, ottenendo pure in alcuni paesi la possibilità di contrarre matrimonio tra di loro. Nel 1915 Remigio Cuminetti risulta essere il primo testimone di Geova del nostro paese che rifiuta di indossare la divisa e combattere per la patria. Subisce 5 processi, viene recluso nelle carceri di Gaeta, Regina Coeli, Piacenza, e passa un periodo persino in manicomio a Reggio Emilia. Oggi gli obiettori sono accettati e protetti. Le prostitute tempo fa erano condannate dalla società, ora sono protette ed hanno un'associazione che le rappresenta. Anni fa la pena di morte era uno spettacolo non ripugnante, oggi è considerato un'offesa alla morale. Quando ero giovane, bravissime ragazze andavano dal parroco a confessarsi, pentite e costernate, solo per aver dato un appuntamento ad un boy scout in un campo da tennis. Un mio zio mi ha raccontato come fosse diventato oggetto di disprezzo nel suo paese solo perché aveva ballato, lontano da casa a un centinaio di metri, con una ragazza senza che questa fosse accompagnata dalla mamma o da una parente più anziana. Oggi poi, per giudicare il bene e il male, si usa sempre più frequentemente rivolgersi all'opinione della maggioranza. Forse ciò è derivato da una malintesa interpretazione della democrazia, ma è veramente la maggioranza a stabilire il giusto e l'errato. L'esperienza dice proprio di no. Jenner, che scoprì il principio della vaccinazione, fu addirittura insultato dai colleghi e alcuni di questi arrivarono a predire che tutte le malattie degli animali si sarebbero abbattute sugli uomini, affermando persino che le corna sarebbero spuntate sulla fronte di vittime innocenti. E moltissimi ne erano convinti, ma benché fossero in maggioranza non avevano ragione. Quando Westinghouse propose di arrestare i treni con l'aria compressa fu considerato un folle dalla maggioranza. Oggi i freni ad aria compressa sono una realtà anche nei camion. Madame Curie esaminò tonnellate di materiali da rifiuto e fu disprezzata dalla maggioranza dei suoi colleghi per le sue ricerche sul radium. Eppure, diede inizio alla grande battaglia contro il cancro. Anche Antonio Meucci fu considerato pazzo dalla maggioranza quando presentò i suoi primi telefoni. Anche la moralità della maggioranza non è sempre in sintonia con il volere di Dio. Se è la maggioranza a definire il bene ed il male, e se la normalità è soltanto il risultato numerico di statistiche di ciò che la gente fa attualmente, cioè il comportamento della media, quello giusto, allora è vero che mentire e rubare è normale. Se è la statistica quella che determina la norma, allora è normale e morale che le prostitute abbiano relazioni intime con più persone al giorno o che gli alcolisti si ubriachino. Ma la normalità e la moralità sono due cose distinte, e non è vero che le cose normali siano anche morali. Certamente nessuno di noi andrebbe da un ladro per sapere ciò che è giusto o sbagliato, così nessuno di noi dipende dai telegiornali né dai giornali per sapere ciò che è morale o immorale. L'etica sociale o civile non è quindi la regola universale per giudicare il bene ed il male. B. La morale personale è invece più stabile, ma si evolve anch'essa col passare dell'età e con l'esperienza. Più di una volta ho sentito persone che da giovani condannavano certi comportamenti dei loro genitori e poi, diventati genitori a loro volta, hanno compreso e giustificato. Un umorista americano disse: «A 16 anni pensavo che mio padre fosse un caso senza speranza, a 20 anni ho visto che aveva fatto dei miglioramenti». C. La morale religiosa è ancora più stabile, ma neppure essa è assoluta, perché l'uomo, aumentando la conoscenza del Dio Trino e della sua legge, è soggetto a rivedere la sua moralità religiosa. Per un cattolico, per esempio, una volta era considerato peccato mangiare carne il venerdì e l'ostia non si poteva toccare con le mani. Prima di prendere la comunione bisognava essere digiuni da almeno 24 ore, poi si passò alla mezzanotte precedente, poi ad un'ora soltanto, ora non c'è, è più bisogno di alcun digiuno. Le donne che andavano in chiesa dovevano avere le gonne lunghe e le braccia coperte. Una tale moralità oggi fa sorridere molti. È importante ricordare che la morale religiosa cambia perché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Perciò certi estremismi o errori sono inevitabili. Nel novembre 1992 la religione cattolica, che ha nel Papa il suo massimo rappresentante, ha riconosciuto pubblicamente di aver sbagliato quando lo scienziato Galileo Galilei venne condannato secoli addietro. Così pure alcuni protestanti messi al bando o bruciati oggi sono stati riabilitati dalla religione cattolica. Quindi la morale, sia personale, civile o religiosa, pur essendo un aiuto nel giudicare il bene ed il male, non è una regola sicura ed infallibile, in quanto rimane comunque incompleta e relativa. Per cultura si intende l'insieme delle manifestazioni tradizionali della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo o di una persona. In questo senso gli studiosi dividono la cultura in cultura inferiore, superiore, media, primitiva, cultura australiana, eschimese, eccetera. Dopo lunga riflessione sono arrivato alla conclusione che se un uomo fosse libero di giudicare il bene ed il male, senza essere condizionato dalla sua cultura, Alla fine si renderebbe conto che per lui niente in questo mondo può essere dichiarato sbagliato. In effetti sta scritto: tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, ma l'Eterno pesa i cuori. Proverbi 21:2. Noi giudichiamo più sulla base della cultura che su quella della morale. La nostra cultura ci condiziona nel valutare il bene ed il male. Facciamo alcuni esempi. Un giorno una donna europea si beffava di un'altra donna orientale perché portava del cibo sulla tomba di suo marito dicendo: tanto non mangia quello che gli porti. È vero, disse l'altra, ma neanche i vostri morti odorano il profumo dei fiori che portate loro. I tagliatori di teste non hanno problemi di morale per uccidere un uomo. I cannibali mangiano gli uomini con la massima indifferenza. Questione di cultura. Fra gli eschimesi, un atto di ospitalità è prestare la moglie al prossimo. Quando ero giovane, era una grave vergogna avere dei pantaloni rotti o lisi. Oggi i giovani comprano i pantaloni nuovi, li sfregano con la carta vetrata e li strappano di proposito per essere alla moda. Anzi, ormai si vendono già lisi e rattoppati. La maggioranza delle persone in Occidente si vergogna a farsi vedere nuda, mentre in Giappone vi sono i bagni pubblici nei quali tutti si espongono nudi al prossimo. Ho conosciuto dei credenti che ritenevano peccato suonare inni cristiani con la chitarra. Avrebbero avuto la stessa opinione se fossero cresciuti in una tribù dove usano, ancora oggi, i tamburi? Mentre un pacifista non ha problemi ad avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, un cappellano militare non trova sbagliato usare il fucile, ma inorridisce di fronte ad un adulterio. In Cina, se si vuole fare un bel regalo ad una ragazza o ad una signora, le si comprano dei crisantemi. Ma provate a portare dei crisantemi a vostra moglie, così come il colore del lutto per i cinesi è il bianco, in Italia è il nero. E tutta questione di cultura. In Israele le corna sono sempre simbolo di forza e di vita, anche la Bibbia ne parla spesso. Ma provate a parlare di corna ad un italiano e vedrete che faccia fa. Quando ero giovane era una grave vergogna se si veniva a sapere che due giovani fidanzati avevano avuto rapporti prematrimoniali. Oggi i giovani vanno in ferie in coppia prenotando una sola camera con l'approvazione dei rispettivi genitori. Anzi, da quanto riferiscono alcuni giornali, molti di essi sono orgogliosi se poi la figlia rimane incinta. Cosa capace di fare la cultura! Mio nonno era maresciallo dei carabinieri e svolgeva il suo servizio a Messina. Un giorno vide una bella ragazza, affacciata alla finestra, e le rivolse la parola. In seguito fu costretto a sposarla, altrimenti avrebbe disonorato tutta la famiglia. Il seno in Occidente è un elemento di seduzione e di tentazione, mentre non ha le stesse caratteristiche in certe popolazioni dell'Africa. Tempo fa andai a visitare una famiglia. Mentre il loro bambino mangiava ad un tratto fece un rutto. E subito i genitori intervennero. Non farlo più, non sta bene. E, chiaro che il bambino cresce con la cognizione che il rutto sia sconveniente. Per contrasto, una sorella raccontava che un giorno invitò a mangiare un fratello straniero, il quale, mentre mangiava, faceva dei rutti sonori. Ella all'inizio era un po' imbarazzata, ma poi venne a sapere che nel paese dell'ospite, per esprimere che il cibo era buono, occorreva proprio agire in quel modo. Naturalmente, da quel momento in poi, la sorella non era più dispiaciuta del comportamento del suo ospite. Possiamo quindi parlare di una morale prodotta dalla cultura. Questi esempi dimostrano che non possiamo affermare con sicurezza che quello che noi siamo soliti condannare sia sbagliato o, viceversa, che quello che riteniamo giusto sia veramente tale. Tutto si fonda sulla nostra morale o etica e sulla nostra cultura. La vignetta umoristica dei due pupazzi di neve è significativa. Mentre uno di questi mangia con gusto un gelato, l'altro, tutto arrabbiato, l'apostrofa. Cannibale! La nostra coscienza è quindi condizionata da due strumenti che sono insufficienti per valutare il bene ed il male. Anzi, si rivelano spesso inadatti e pericolosi. Non esiste quindi un'etica uguale per tutti. Una condotta universalmente uniforme. La coscienza, appoggiata dall'etica e dalla cultura, non è dunque un metro morale assoluto. La mia conclusione è diversa da quanto afferma C.S. Lewis nel suo libro Mere Christianity. So bene che alcuni sostengono sbagliata l'idea di una legge della natura o di buona condotta nota a tutti gli uomini, perché civiltà diverse ed età diverse hanno avuto morali completamente diverse. Ma non è vero. Ci sono state differenze tra le loro morali, ma non sono mai state sostanziali. Se qualcuno volesse paragonare fra loro, per esempio, l'insegnamento morale degli antichi egiziani, babilonesi, indù, cinesi, greci e romani, rimarrebbe colpito nel constatare quanto siano simili fra loro e simili al nostro. Non voglio certamente scendere in polemica con un professore di letteratura inglese medievale e rinascimentale, a cui sono tanto debitore, ma non posso dimenticare tutte le scelleratezze e le aberrazioni descritte nella Bibbia, commesse dai popoli che Israele ha conquistato. E non solo questi. Riguardo poi alle leggi civili delle nazioni citate da Lewis, ho l'impressione che egli abbia esaminato più le cose che accomunano le religioni anziché le divergenze. Del resto, egli stesso ha riconosciuto che religioni amorali e morali a religiose sono sempre esistite ed esistono tuttora. The Problem of Pain. Il famoso codice di Hammurabi, per esempio, aveva delle leggi a difesa della prostituzione, la quale nella sua forma cultuale era una voce degli introiti del tempio. Ma vi è un'altra riflessione da fare. Il movente per cui viene emanata una legge. Ciò significa che una legge non è sempre dettata dalla morale, ma può avere altre motivazioni. È sufficiente guardare la società in cui noi viviamo oggi. Anche quando l'adulterio fosse ritenuto una colpa dalla legge civile, gli stessi promulgatori lo commettono. Perché? Perché gli uomini si sono resi conto che per una vita sociale il più possibile sana ed equilibrata, devono salvaguardare prima di tutto l'istituto del matrimonio. Le leggi morali che hanno emanato i governanti non sempre sono state dettate da una coscienza sensibilizzata dal peccato, ma da convenienza. Una cosa è che io ritenga l'adulterio un'azione sbagliata, un'altra che io non lo commetta per convenienza personale e sociale. Una cosa è che io ritenga l'inganno un peccato, un'altra che io non inganni nessuno solo per non andare in galera. La necessità impone. E è stata fatta anche un'indagine sulla sessualità dei giovani. Il risultato è stato che sono molto più fedeli al partner di una volta. Ma la causa non deriva da una coscienza convinta di sbagliare, ma dalla paura di prendere l'AIDS. Vi sono spose che sono arrivate vergini all'altare, ma le ho sentite affermare che, potendo tornare indietro, avrebbero preferito avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Il loro comportamento era sì in conformità al volere di Dio, ma aveva un tornaconto. Se avessi avuto rapporti sessuali e il mio fidanzato mi avesse abbandonata, come avrei potuto arrivare vergine all'altare? Che la moralità dell'uomo coincida con il volere del Dio Trino spesso è casuale, e lo dimostra il fatto che la società appena può se ne discosta. Oggi è di moda convivere con altri, sia prima del matrimonio che tra due persone ancora legalmente sposate. Nessuno stupore, nessuno scandalo, nessuna riprensione. Il peccato, per l'uomo, è come la moda. Proprio per questo mi è difficile accettare che vi siano dei comportamenti morali universalmente riconosciuti solo perché palesemente indiscutibili. E come dire che il tradimento è odioso? In Nuova Guinea, scrive D. Richardson nel suo libro Il figlio della pace, nella tribù di nome Sawi, il tradimento è considerato una virtù. Nella nostra società il tradimento forse non viene apertamente confessato, ma senza dubbio oggi non è neppure più ritenuto tanto odioso, considerato che è normale che un coniuge tradisca l'altro, che si tradiscano negli affari gli amici e i parenti, e questo spesso anche per vendetta, e non solo per interesse. Nella conquista dell'America, e non solo di questa, sono state massacrate intere popolazioni. Senza pietà sono stati eliminati brutalmente vecchi, donne, bambini. Forse è vero, esiste una buona condotta per tutti gli uomini, ma non è nota, come invece afferma Lewis. Che cos è quindi che determina in modo giusto il bene ed il male? Cos è che definisce in modo assoluto la colpevolezza, la trasgressione, se tutto è così relativo? Esiste qualcosa di non relativo per il quale possiamo dire, una volta per sempre, che questo è male o bene? Non pongo all'interrogativo chi dichiara che una cosa sia bene o male, perché questo presuppone qualcuno, una persona, e se ci appelliamo ad una persona, ognuno di noi dipenderà dalla sua autorità. Per i cristiani l'autorità religiosa è il Dio Trino, per i maomettani è Maometto, per i buddisti è Buddha, per un moralista sarà la sua coscienza. Non può essere allora l'autorità alla quale ci appelliamo il nostro riferimento etico, perché essa è soggettiva. Ma qualcosa a cui guardare che sia veramente valido per tutti esiste, e mi servo di un esempio. Da Maranello, il paese della Ferrari, al mio paese natio Formigine, c'era un rettilineo di 5 chilometri, dove nel 1950 la Ferrari provava le sue automobili lanciandole alla massima velocità. Oggi la Ferrari non prova più qui le sue auto, anzi non può più provarle. Perché? Cos è cambiato? Il rettilineo è sempre di 5 chilometri, la Ferrari ha sempre le stesse esigenze, ma è subentrato qualcosa che ha reso illecito ciò che prima era lecito, la legge. Infatti quel rettilineo ha ora dei semafori e dei limiti di velocità. La legge ha reso dunque illecito ciò che prima era lecito. Una volta un giovane poteva andare in ciclomotore senza casco, oggi, con la legge che lo ha reso obbligatorio, chi non lo indossa è colpevole. Nel 1896, in Inghilterra, una legge proibì a qualsiasi veicolo a motore di procedere sulle strade carrozzabili ad una velocità che superasse gli 8 km all'ora. Oggi, non essendoci più questa legge, non esistono i trasgressori. Tempo fa violentare una ragazza era una offesa alla morale, oggi è diventata una offesa alla persona solo perché una legge dello Stato lo ha dichiarato. In Italia una persona divorziata, nell'ambito della religione cattolica, se si unisce ad un'altra persona, commette un adulterio, mentre in America ci si può risposare più volte in un solo giorno. Una volta si poteva fumare in tutti i luoghi, oggi nei locali pubblici non si può più. Quindi è la legge quella che stabilisce il bene ed il male, e di conseguenza la morale. Giunti a questa conclusione, constatiamo però di non aver detto nulla di nuovo. I primi cristiani vissuti 2000 anni fa erano già giunti a questa conclusione, avevano le idee molto chiare al riguardo. Paolo afferma infatti nella lettera ai Romani, dove non ci è legge, non vi è neppure trasgressione, 4:15. Il peccato non è imputato quando non ci è legge, 5:13. Non avrei conosciuto il peccato, cioè la trasgressione, se non per mezzo della legge, 7:7. E Giovanni conferma, il peccato è la violazione della legge. 1 Giovanni 3:4. Paolo e Giovanni erano persone pie e religiose, avevano una coscienza, una morale, una cultura, ma si resero conto di come esse variassero da popolo a popolo e quindi indicarono la via per conoscere veramente ciò che era sbagliato, la legge. Secondo i primi cristiani non era la coscienza o la morale, e neppure la cultura che dichiarava ciò che era peccato o sbagliato, ma la legge. Chi non accetta questo principio si mette al posto della legge, è legge a se stesso. Nel 1992 ho sentito un giornale radio che diceva «È stata fatta un'IANE, indagine sulla religiosità degli italiani. I fedeli sono autonomi in campo morale e decidono loro ciò che è bene o peccato. Forse questo non dice niente». Ma avere un simile comportamento significa dare spazio all'individualismo, al soggettivismo, cioè ad un'autonomia pericolosissima che apre, per la società, la strada alla venuta di un tiranno. Uso termini come individualismo e soggettivismo nel loro significato più intrinseco. In termini molto semplici, l'individualismo è quella dottrina che afferma il valore irriducibile dell'individualità sia fisica che morale. Perciò una persona decide essa stessa ciò che è bene e ciò che è male. Il soggettivismo è invece qualsiasi sistema filosofico che subordina ogni realtà al soggetto pensante, considerando perciò impossibile una conoscenza obiettiva della cosa in sé, di conseguenza ritenendo impossibile che esista un punto fermo a cui guardare che sia comune a tutti, l'uomo decide autonomamente ciò che è giusto o sbagliato. Ma questi sono proprio il metodo ed il principio più disastrosi per l'uomo, cominciando dal campo della fisica per poi finire in quello spirituale. Vediamolo nel campo della scienza. I nostri cinque sensi possono essere chiamati le finestre dell'anima. Mediante essi noi possiamo avere comunione con il mondo fisico che ci circonda. Essi però sono limitati. Noi non vediamo tutta la luce che esiste, i nostri occhi sono invisibili, i raggi infrarossi e gli ultravioletti. Noi non sentiamo tutti i suoni del creato, come per esempio gli ultrasuoni emessi da certi animali. E per questi limiti noi facilmente facciamo deduzioni sbagliate. Pochi anni fa si diceva muto come un pesce. Oggi la scienza ha scoperto che i pesci comunicano e si corteggiano emettendo suoni. Solo quando l'uomo si è reso conto che i suoi sensi sono limitati ed imprecisi ha potuto progredire nella scienza. Anzi, tale consapevolezza è il vero fondamento della scienza, che deve essere associata a un grande senso di modestia e di umiltà. Prima dell'era scientifica, l'uomo non aveva una vera concezione di un sistema universale regolato da leggi rigorose. Egli formulava teorie e principi sulle povere e scarse cognizioni che ricavava dai suoi sensi, limitati ed imprecisi. L'era scientifica nacque solo quando l'uomo smise di confidare sui propri sensi e cominciò a munirsi di strumenti per superare questi limiti. Per esempio, il telescopio, il microscopio e l'orologio. Oggi l'uomo sa che il mondo fisico è governato da leggi universali ed immutabili fin dall'inizio dei tempi. Ma la parola di Dio ne parlava già da millenni. Giobbe 38:33 e Geremia 31:34-35. L'uomo sa che è necessario e anzi vantaggioso osservare strettamente e meticolosamente queste leggi e ne paga le conseguenze se non le osserva. Oggi egli sa che la buona fede e le buone intenzioni non sono sufficienti per procedere nella conoscenza. L'atteggiamento di riconoscere i propri limiti è relativamente nuovo, ma ha dato molti frutti, e quando l'uomo lo ha adottato, ci è stata una netta impennata nel progresso scientifico. Vediamo nel campo della morale. Spesso l'uomo non riconosce nessuna legge all'infuori di se stesso, crede che la sua moralità sia il metro più sicuro per giudicare il bene ed il male di tutto e quindi si sente libero di fissare i propri canoni e costruirsi le proprie leggi. Ancora una volta l'uomo si affida alle proprie forze. Egli, nella sua presunzione, si ritiene libero di costruire le proprie teorie ed i propri principi sulla base delle scarse cognizioni che gli provengono dai propri sensi. Ma questi, nel campo della morale, sono ancora più limitati e meno attendibili. Quando qualcuno afferma «io ho i miei valori religiosi», diventa ridicolo. Perché è come se dicesse «io ho la mia tavola delle tabelline». Se questo atteggiamento è assurdo nella scienza, quanto più lo è nel campo della morale. Noi tutti dobbiamo uscire da questa ingannevole vita di autonomia. Il vocabolario definisce l'autonomia indipendenza politica, cioè la facoltà di governarsi secondo le proprie leggi. Ma questa è anche la ragione di tanta immoralità e criminalità. Vediamo come. Molti problemi all'interno di una comunità o di una famiglia avvengono proprio per questo tipo di comportamento. Molte persone fanno quello che vogliono proprio perché si erigono leggi a se stessi, senza alcun costrutto. Alcune di queste, generalmente caratterizzate da una forte personalità, blaterano di non imporre leggi a nessuno, ma lo sostengono solo perché essi stessi non vogliono essere soggetti a leggi. Altri si vantano di ubbidire sempre alla loro coscienza e non si rendono conto che il loro modo di agire non è altro che un alibi per fare tutto quello che vogliono. Dobbiamo diffidare poi anche di coloro che sono contro tutto e contro tutti, diceva qualcuno con un pizzico di sarcasmo. Una volta diventare adulto significava ricevere risposte ai nostri dubbi, oggi significa mettere in dubbio le risposte. Dobbiamo dunque renderci conto che in questo mondo esistono delle leggi che siamo costretti a rispettare, come è indispensabile rispettare quelle della fisica, altrimenti non vi sarà per noi e per la società alcun progresso. La scienza, come abbiamo visto, ha iniziato a fare progressi nel momento in cui gli scienziati hanno dato più valore alle leggi fisiche che alla propria conoscenza. Se vogliamo crescere e maturare, è inevitabile uscire fuori dal nostro ipotetico mondo morale per accettare le leggi che definiscono tale moralità. Non dobbiamo far leva sul nostro sapere perché la verità è fuori da noi. Gesù disse di essere la verità. Nessun uomo può parlare ed agire come se fosse la verità. Se è la legge che dichiara il bene ed il male, allora è indispensabile ubbidire ad essa. Nonostante questa banale conclusione, l'ubbidienza a questo principio non è poi così facile. Prima di tutto, perché se un giusto comportamento morale consistesse semplicemente nel seguire certe regole, potremmo far diventare morale un computer con un programma. Inoltre, è giusto ubbidire sempre alla legge? La storia del cristianesimo è disseminata di persone che hanno più volte trasgredito alle leggi. Ancora oggi, i cristiani introducono stampati religiosi e bibbie in stati dove è proibito. E qui si dimostra che coloro che insegnano che bisogna ubbidire alla legge sono i primi a disubbidirla. Come spieghiamo questi fatti? Se trasgredisco il codice stradale, posso dire di avere commesso un peccato, cioè di aver violato la legge di Dio. Non mi sembra. Esistono forse altre leggi oltre a quella del Dio Trino? Sembra di sì, ed è questo che cercheremo di esaminare. 2. LETRE LEGGI. Ho fiducia che non si considerino le seguenti riflessioni, una mera dissertazione, oppure un discorso astratto. Infatti, in ogni capitolo desidero sottolineare almeno una verità importante. L'obiettivo che ho inteso raggiungere con le precedenti riflessioni era quello di considerare che non basta vivere o basare la propria vita morale sulle regole che ci detta la nostra coscienza. Questo significherebbe cadere nel soggettivismo e nell'altruismo, due comportamenti che possono rivelarsi alquanto dannosi per se stessi e per la società. Come siamo arrivati ad affermare ciò? Abbiamo considerato come l'uomo sia un essere dotato di coscienza. Quest'ultima, per valutare il bene ed il male, è stimolata da due strumenti, la morale, o etica, e la cultura. L'etica dell'uomo che si esprime nel campo civile e religioso è, come abbiamo considerato, relativa, insicura, uno strumento quindi non affidabile. La cultura altresì limita necessariamente la nostra conoscenza a vedute parziali, e quindi molti giudizi sul bene e sul male sono relativi se non addirittura sbagliati. Cosa? E allora ci siamo chiesti ciò che definisce il bene ed il male, o determina la trasgressione. Abbiamo allora trovato che chi la determina è la legge. Sposare, infatti, la propria sorella è diventato peccato solo dal giorno in cui l'Eterno ha vietato tale unione. Ma questo è solo un principio. Ora dobbiamo esaminarlo alla luce della realtà umana. Se io non festeggio l'anniversario del 25 aprile, posso dire di aver commesso peccato. Se io non osservo il limite dei 50 km all'ora guidando in città, sono veramente colpevole. Se lo Stato mi ordina di andare a combattere in guerra, ed io mi rifiuto, posso rimanere sereno davanti a Dio? Se per salvare la vita di una persona innocente mi trovo costretto a mentire, è questo un peccato? Questi sono alcuni degli interrogativi che la nostra coscienza ci impone, ma, dopo aver affermato che è l'esistenza della legge a dichiararmi trasgressore, la risposta più ovvia sarebbe che in tutte queste situazioni io sia colpevole e di conseguenza punibile. Eppure non tutte le trasgressioni sono peccato, non tutte le situazioni presuppongono una punizione, anche se in ognuna di queste vi è trasgressione. Siamo quindi di fronte ad interrogativi non facili. Quando un'azione si può definire peccato? È ogni trasgressione peccato? Ogni trasgressione deve essere punita e ricevere la relativa condanna. Questo è l'argomento che tratteremo qui di seguito. Leggiamo in Esodo 34, 5 a 7 l'incontro di Mosè con Jahacaveaca, la divinità di Israele. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona la colpa, la ribellione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Questo episodio è unico nella letteratura di tutto il mondo, perché per la prima volta l'Eterno rivela in sintesi il suo carattere, ci rivela chi è, abbiamo cioè la sua carta d'identità. Egli si presenta come colui che è misericordioso, benigno, che usa misericordia e perdona il peccato, però non dice di perdonare solo il peccato, ma anche altre due infrazioni, la colpa e la ribellione. Come abbiamo detto, non vi è violazione, cioè peccato, se non vi è legge, e noi subito associamo la parola legge ai 10 comandamenti. Se Dio Eliach perdona non solo il peccato, ma anche la colpa e la ribellione, dobbiamo concludere che vi sono altre infrazioni, oltre la disobbedienza alla sua legge. In effetti, oltre al peccato, cioè la trasgressione alla legge divina espressa nei suoi comandamenti, secondo l'Eterno, vi sono altri due tipi di disobbedienze o di inosservanze che l'uomo compie e che egli ritiene punibili e quindi da dover essere perdonate. Infatti, le parole ebraiche tradotte con colpa, ribellione e peccato sono tre parole diverse e sono associabili a tre sfere nell'ambito delle quali l'uomo commette errori: quella personale, civile, religiosa. Vedremo che la violazione di qualsiasi legge o trasgressione da parte dell'uomo si verifica in una di queste tre sfere. Analizziamo ora separatamente le tre leggi in queste tre sfere: LALEGGE, PERSO, NALE. Così scrive Paolo nella lettera ai Romani. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi, che non hanno legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Romani 2, 12-15. Paolo divide il mondo in due categorie: quelli che hanno la legge e quelli che non l'hanno. Coloro che hanno la legge sono i giudei, mentre tutti gli altri, chiamati gentili o stranieri in meno, non conoscono i comandamenti di Dio. Parlando dei pagani, cioè di coloro che non conoscono la rivelazione della legge senza la quale non possono rendersi conto dei loro errori, Paolo afferma che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori. Quindi essi sono legge a se stessi. Cosa significa questo discorso? Significa che la divinità di Israele riterrà responsabili le persone per il modo in cui si saranno comportate secondo i parametri giusti o sbagliati che si erano dati in base alla loro coscienza. Allora gli esquimesi non saranno condannati per chi offrono la propria moglie ad un ospite, ma saranno giudicati per la loro incoerenza su ciò che ritengono male. Così i cannibali non saranno condannati per chi uccidono un uomo per mangiarlo, ma solo quando avranno un comportamento contraddittorio con la loro coscienza. La cosa sorprendente è, come dirà Lewis, che tutti gli uomini sono ugualmente condannati non da codici morali a loro estranei, ma da quello che hanno scelto loro, e tutti sono pertanto consci di essere colpevoli. Inoltre, si nota spesso che un uomo condanna altri per certe cose che egli stesso ha tendenza a compiere. Ricordo, per esempio, un conduttore di chiesa che condannò severamente un altro perché aveva lasciato la chiesa alla quale apparteneva per fondarne un'altra. Ma poco dopo egli fece la stessa cosa, L'uomo sarà quindi giudicato prima di tutto dai parametri della propria coscienza, ma dobbiamo precisare due aspetti. 1. Quest'ultima affermazione è valida fino a quando l'uomo non viene a conoscenza della legge di Dio. Un uomo che dichiara di camminare secondo la propria coscienza sapendo che Dio non approva quel comportamento è ritenuto da lui meritevole di punizione. 2. Quando affermo che l'uomo sarà giudicato in base ai parametri della propria coscienza, non intendo dire che egli è giustificato se commette cose sbagliate, ma che la condanna sarà data in base al rapporto che egli avrà avuto con la propria coscienza. La coscienza è quindi una di quelle leggi che l'Eterno Dio userà per giudicare l'uomo. Non solo coloro che non conoscono la legge di Dio sono legge a se stessi mediante la coscienza, ma in una certa misura anche i cristiani. Paolo afferma nella sua lettera ai Romani: Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Romani 14 e 14. Per Paolo nessuna cosa era immonda, ma se per qualcuno era immonda, per lui lo era. E, importante il per lui perché questo conferma quanto la coscienza sia relativa, personale. In questo modo nessuno ha il diritto di dire agli altri che una cosa è giusta o sbagliata quando lo è solo per lui. In questo ambito rientrano certamente quelle problematiche sessuali esistenti all'interno del matrimonio. Anni fa era considerato perverso o peccato ogni rapporto che non fosse finalizzato al concepimento. Oggi la coppia gestisce la sessualità secondo la propria coscienza. Ed il predicatore non può condannare peccati che sono tali solo per lui. L'Eterno non ha dato regole precise su come la coppia debba gestire la sessualità, se non vietando ciò che è contro natura e ciò che non rispetta la coscienza dell'altro coniuge. Così pure vi è una diversa coscienza per ciò che riguarda il sesso tra genitori e figli. Alcuni fanno il bagno con i figli piccoli anche di sesso opposto. Altri ritengono che le parti intime non siamo mai da mostrare. Inoltre, ognuno di noi possiede una propria coscienza per quanto riguarda il proprio rapporto di comunione con il Signore. Ci sono cose e modi di fare che possono essere leciti per alcuni, ma non per altri. Un cristiano può essere coinvolto nella politica, un altro può svolgere un lavoro sociale fra le prostitute, un altro ancora può lasciare il proprio lavoro per fare il missionario, ma voler dare un giudizio generalizzato su questi comportamenti crea danni irreparabili. Imporre la propria fede a un fratello può essere molto dannoso, può fargli perdere quella che ha. Noi tutti conosciamo solo parte dello scibile, e quindi siamo limitati nel modo di interpretare la scrittura. Siamo infatti condizionati dalla nostra cultura, educazione, età e soprattutto dal nostro carattere. Ecco, a proposito di questo ultimo punto, che cosa afferma il medico e psicologo Paul Tournier? La maggioranza degli uomini riflette assai meno di quanto crede. L'elemento principale dell'agire di un uomo è principalmente il carattere di cui ciascun individuo è dotato. La ragione non guida per nulla le persone come si credeva un tempo. Le analisi di storici ed economisti, come quelle di marxisti, esistenzialisti e psicoanalisti, ci hanno guariti da simile illusione. La ragione serve soltanto a giustificare, nell'area della coscienza chiara, il comportamento che ci viene dettato da oscure forze della natura, gli impulsi provenienti da istinti, quali quello della conservazione, del possesso o dell'aggressività, o l'istinto sessuale o quello di potere e di sviluppo. Dobbiamo accettare con molta umiltà l'analisi di questo psicanalista cristiano, perché molte questioni che noi riteniamo bibliche o di coscienza non sono altro che dettate dal nostro brutto carattere, dai nostri complessi e dalla nostra natura corrotta, alla quale invece noi attribuiamo un valore di spiritualità. Infatti, di solito le maggiori diatribe avvengono nelle chiese proprio in merito a quei punti in cui la parola di Dio non è chiara. Per esempio, fumare è un peccato? La Bibbia non afferma nulla al riguardo, anche se vi sono affermazioni che possono darci indicazioni come «Tutto mi è lecito, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna» 1 Corinzi 6 e 12. Fumare diventa peccato quando questo atto ci rende schiavi, Come del resto, vi sono altre cose che possono indurci alla schiavitù: il caffè, i dolci, lo sport, il gioco, il riposo, il lavoro e tante altre cose più o meno lecite. Eppure per alcuni tali cose non sono così gravi in coscienza come il fumo. Dobbiamo fare però distinzione tra il peccato e il senso di colpa. Il peccato è la trasgressione alla legge di Dio, il senso di colpa spesso è il risultato della cultura e della morale. Possiamo essere talmente corrotti nella nostra coscienza da commettere azioni turpi e restare sereni. Mentre al contrario, per ragioni di cultura, possiamo fare azioni giuste e sentirci in colpa. Io stesso ricordo che prima di conoscere Dio e la sua volontà ho consigliato tranquillamente ad una giovane di abortire, mentre mi sentivo in colpa quando leggevo la parola di Dio perché il sacerdote del mio paese me lo aveva vietato. Il Dio della parola riconosce che esistono varie opinioni e culture fra i cristiani e, anzi spesso, si è espressa in merito. Afferma Paolo, uno stima un giorno più di un altro. L'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Romani 14, 5. La santità è certamente uno dei temi più importanti e più sentiti dai cristiani, eppure anch'essa, al di fuori di una chiara rivelazione di Dio, è soggettiva e relativa. Alcune chiese non ammettono il santo bacio tra sessi diversi, altre sono in disaccordo sulla lunghezza della gonna che devono portare le donne nelle assemblee. Per alcuni il cinema è un luogo di peccato, per altri la donna non deve portare i pantaloni. Un conduttore di chiesa ha vietato ad una sorella di svolgere la sua attività di pittrice e ad un giovane di esprimersi con il canto, perché secondo lui erano peccati. Quando la coscienza di chi occupa un posto di responsabilità non è ben regolata, perché condizionata da problemi psicologici che lui ignora, inevitabilmente provoca problemi morali dannosi, se non distruttivi. Ho conosciuto persone a cui era stato inculcato il detto: chi disubbidisce ai conduttori di chiesa, disubbidisce a Dio. Trovatesi poi in conflitto di coscienza con loro, piuttosto che cambiare chiesa hanno preferito perdere ogni minimo sentimento nelle cose religiose. Dobbiamo tutti accettare la relatività della nostra etica, perché è l'unico modo per vivere una vita serena con noi stessi e con il prossimo. Dobbiamo evitare giudizi e sentenze che altrimenti ritroveremo in cielo, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. Matteo 7, 1. Signore, fa che i miei giudizi siano veritieri, teneri e dolci, perché può darsi che domani debba rimangiarmeli. La coscienza rientra quindi in una delle tre leggi che Dio ha stabilito, ma ci rendiamo conto che possiamo usarla in un modo sbagliato. Occorre un principio guida universale che ci garantisca la possibilità di usare questa legge nel modo giusto. Principio guida che stiamo cercando. LALGGECIVILA. Non sempre uno Stato emana leggi giuste. In America, al tempo degli schiavi, le persone di colore venivano comprate, vendute, scambiate, violentate come se fossero bestiame. Adam Thompson, nel 1842, negli Stati Uniti, a Cincinnati, nello stato dell'Ohio, usò per la prima volta una vasca da bagno. A Filadelfia si fece una legge che proibiva l'uso delle vasche da bagno, dal 1 novembre al 1 marzo. Nello stato di Rhode Island si aumentarono le tasse sull'acqua per scoraggiare l'uso della nuova invenzione. Tutti questi fatti, che si trovano nelle cronache dei giornali dell'epoca, dimostrano, a distanza di tempo, come certe leggi civili siano assurde. Eppure, quando uno Stato emette una legge, questa deve essere osservata da tutti. Ogni persona è chiamata ad adeguarsi a tali norme, altrimenti ne consegue che chi viola queste leggi è colpevole. Il 29 dicembre del 1995 il codice penale italiano stabilì che chiedere l'elemosina non era più un reato. Mentre in Italia, fino a quella data, l'accattonaggio era sempre stato un reato, nel buddismo questa pratica è invece considerata una delle virtù fondamentali. Come variano le leggi da Stato a Stato? In Italia non è ammessa la bigamia, mentre nell'Islam l'uomo può avere fino a 4 mogli. Quando ero giovane le sale da ballo chiudevano a mezzanotte, mentre oggi i giovani a quell'ora si recano nelle discoteche. Eppure è sorprendente vedere il cambiamento nell'educare i bambini. A scuola tempo fa non c'era niente di strano che venisse usata una verga per correggerli. In casa poi ogni tipo di correzione era lecita. Quando io andavo a scuola, i bambini con tendenze mancine venivano rimproverati perché non stava bene scrivere con la mano sinistra. Quando nel 1962 la cantante Mina rimase incinta senza essere sposata, le fu vietato di apparire in televisione per lo scandalo. Per capire quale morale dominava in quel periodo, basti ricordare questi esempi. Al cantante Modugno censurarono le parole di una sua canzone che dicevano: «Non mi importa chi ti ha avuto». La cantante Yura De Palma fece scandalo per il verso di una canzone che ripeteva: «Tua, nella bocca tua». L'idea dell'amante o dell'adulterio non doveva apparire neppure nel canto. Inoltre, in una trasmissione di genere musicale, canzonissima, le ballerine dovettero portare le calze, perché non potevano mostrare le gambe nude. Infine, durante una puntata della trasmissione televisiva Lascia o raddoppia, una ragazza fu esortata a mettersi addosso una giacca, perché giudicata troppo svestita. La parola di Dio afferma esplicitamente: ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Romani 13, 1 e 7. Non vi sono dubbi. È giusto e coerente con la coscienza essere sottomessi alle autorità civili. Eppure, se vi è un comandamento che i cristiani a volte sono costretti a trasgredire, è proprio questo, soprattutto quando non vi è libertà religiosa. Credo che una regola valida per aiutarci ad avere meno problemi di coscienza sia quella di tenere sempre presente lo spirito della legge. È possibile osservare una legge infrangendo però lo scopo per la quale è stata istituita. Viceversa, si può disubbidire o infrangere una legge, pur restando in regola con la legge stessa. Ecco un esempio di come si può disubbidire alla legge civile per osservarne lo spirito. Questo esempio scaturisce da un incidente che ho avuto molti anni fa. Una sera, mentre guidavo la mia auto, due camion si scontrarono ed uno di essi, uscito di carreggiata, mi investì, coinvolgendomi in un pauroso incidente. Rimasi illeso e poco dopo arrivò la polizia per verificare le varie responsabilità. Fu subito chiaro che io ero totalmente vittima dello scontro dei due automezzi. Ma il poliziotto dovette svolgere le dovute indagini. «Mi spieghi la dinamica del suo incidente», mi chiese il poliziotto. Mentre ero intento a spiegare quanto era accaduto, mi fermò e mi chiese: «A che velocità andava?» Prontamente risposi che andavo circa ai 60 km all'ora. «Bene», rispose, «scrivo 50». «Ma», corressi il poliziotto con semplicità ed onestà, «non vado mai così piano, quasi sicuramente guidavo ai 60». «Bene», continuò il poliziotto, «scrivo 50». A quel punto un lampo attraversò la mia mente ed acconsentii. Infatti il poliziotto che aveva constatato la mia totale innocenza nell'incidente, se avesse scritto 60, mi avrebbe fatto risultare colpevole, o quantomeno in concorso di colpa, poiché in città non si devono mai superare i 50 km orari. Volendomi aiutare, e soprattutto volendo essere giusto, doveva mentire perché fosse fatta giustizia nei miei riguardi. Il poliziotto aveva disubbidito e infranto varie leggi civili non dichiarando il giusto, ma ne aveva osservato lo spirito della legge perché un innocente non fosse condannato. Ancora a proposito di incidenti stradali, ricordo che anni fa, quando si denunciava ad una assicurazione l'entità di un danno subito, si soleva dichiarare di più per ottenere poi il giusto risarcimento. Era sbagliato? Questione di coscienza. Per un problema del genere ho sempre presente l'affermazione di Gesù: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Con questa asserzione egli non ha approvato ogni ingiustizia, ma ha voluto sottolineare che la legge è stata istituita per il bene dell'uomo, per aiutarlo, per il suo benessere, e non perché l'uomo viva per o in funzione di una legge. Sotto questo aspetto, allora, vi sono leggi giuste ed ingiuste che uno Stato, come abbiamo visto, può emanare. Come distinguere una legge giusta da una ingiusta? Ogni legge che non contribuisce ad elevare la personalità umana è da ritenere ingiusta. Dobbiamo accettare il fatto che non esistono leggi civili perfette, nemmeno quelle che l'Eterno ha dato, come egli stesso disse: diedi loro perfino delle leggi non buone e dei precetti per i quali non potevano vivere, Ezechiele 20 e 25. Infatti l'Eterno permise a causa della durezza del cuore dell'uomo la legge del divorzio e non abolì la schiavitù anche se venne circoscritta. Inoltre lo stesso Gesù aveva constatato che a volte non si poteva osservare la legge di Dio senza violarne un'altra, eppure questo non rendeva colpevoli i trasgressori, come egli disse: non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti violano il sabato e non ne sono colpevoli? Matteo mezzogiorno e un quarto. Infatti, i sacerdoti dovevano offrire alcuni sacrifici il sabato, oppure dovevano circoncidere un bambino di sabato. Dunque, anche la legge civile di Dio deve essere interpretata correttamente. Possiamo quindi compiere un'azione non legale ma legittima, come quando si attraversa un incrocio con il semaforo rosso, con a bordo un ferito grave alla maniera dell'autoambulanza. La scrittura ci ricorda a proposito della regina Esther, che si è presentata al re Assuero per ottenere una grazia senza essere stata prima da lui chiamata. Sebbene ciò sia contro la legge, Esther 4 e 16. L'esempio poi di un vigile urbano che per motivi di sicurezza si mette in un incrocio e fa passare con il rosso e ferma le macchine con il verde, dimostra che a volte vi è una legge superiore ad un'altra legge. Senza questa legge, che prenderemo in esame in seguito, non è possibile nessun tipo di convivenza giusta e serena. Molto probabilmente, proprio per questo motivo, Paolo giustamente ha osservato: la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. 1 Timoteo 1 e 18. L'uso legittimo è dato certamente dal cogliere nello spirito. Verità questa, sottolineata da Gesù quando disse: poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Matteo 5 e 20. Proprio dopo questa affermazione, Gesù comincia ad affermare: voi avete udito che fu detto, ma io vi dico, perché l'insegnamento dei capi religiosi si fermava alla sola lettera della legge. Essi si ritenevano giusti solo perché non commettevano materialmente adulterio, ma Gesù evidenziò che un adulterio era possibile, anche solo mentalmente. Pensavano di rispettare il comandamento di non uccidere solo perché non ammazzavano nessuno, mentre Dio ci avverte che chi cova dell'ira nel suo cuore è già omicida. E infine, per ubbidire alla legge, i sacerdoti evitavano rapporti con persone di dubbia onestà, mentre il volere di Dio era che nutrissero misericordia soprattutto per coloro che erano scartati dalla società. La legge di per sé è incompleta e per questo la nostra coscienza ne determina la condotta. Non basta quindi avere la legge ed osservarla. Il cristiano è chiamato ad osservare, più che una legge civile in modo letterale, lo spirito della legge stessa. E per fare questo occorre che sia guidato da un principio guida che gli garantisca la giusta interpretazione. Principio guida che stiamo cercando. LALEGGERELIGIOSA. La legge religiosa è quella che proviene dalle autorità religiose. Tali norme regoleranno quindi la nostra condotta. Il giorno festivo per un musulmano è il venerdì. Per un ebreo il sabato, per un cattolico la domenica. La violazione dipende quindi dalla fede che uno ha. Nel caso di un musulmano sarà infrazione mangiare carne di maiale, per un testimone della torre di guardia è illecita la trasfusione di sangue. Per un cattolico era proibito mangiare carne di venerdì, partecipare ai riti di un'altra confessione religiosa. e ai nonni protestanti era proibito far da padrini al battesimo del nipote cattolico. Oggi, invece, sembra che per i cattolici i peccati si siano ridotti, pur restando sempre grave quello dell'aborto. Ma soprattutto la ribellione al magistero della Chiesa, come nel caso di Lutero. Per un vero cristiano è evidente che la sua autorità è la parola di Dio. Per lui quella sarà sempre la norma per la condotta da seguire. I 10 comandamenti costituiscono senz'altro il cuore dell'etica biblica, perciò il cristiano commette peccato quando trasgredisce questa legge. Anche se il cristiano a questo punto fermo, non tutti i problemi sono risolti, perché resta sempre il dilemma che noi conosciamo in parte la verità e che in parte comprendiamo quello che Dio ci ha rivelato. 1 Corinzi 13:9. I cristiani devono comprendere, o meglio accettare, che non sono fedeli alla verità, ma lo sono a quello che comprendono della verità. Questo significa che non sono sempre fedeli alla scrittura come alcuni pur in buona fede si ritengono, ma sono fedeli alla interpretazione che di essa ne danno. Solo accettando questo saranno meno ottusi nelle loro convinzioni. Accetteranno con umiltà questi limiti umani, saranno in grado di meglio capire, di ragionare più pacatamente, di confrontarsi con chi vede diversamente da loro, senza eccedere in sentenze di condanna o di scomunica. Molti cristiani pensano che avendo nella legge la formula della conoscenza e della verità, Romani 2:20, siano sufficientemente preparati per distinguere il bene e il male. Dobbiamo toglierci questo preconcetto. L'Apostolo Pietro, un pio giudeo che seguiva la vera fede rivelata dall'Eterno, poteva definire la sua vita prima di conoscere Cristo un vano modo di vivere tramandato dai padri, 1 Pietro 1:18. Noi abbiamo i 10 comandamenti, e per questo pensiamo di avere le idee chiare riguardo alla morale, ma dobbiamo renderci conto che avere la legge di Dio non significa automaticamente seguire la verità. Leggevo in un giornale evangelico un'opinione di un musulmano. Importante per noi islamici, dice Hans Piccardo, ricordarsi quello che il Corano dice ai credenti. L'obbedienza a Dio è falsa se non sa attenersi al bene. Amare Dio significa per noi cercare il bene e combattere il male. Il relativo commento di un credente era: il problema è sapere chi definisce ciò che è bene e ciò che è male. Esercizio molto difficile da svolgere, specie se si pretende che la definizione di bene espressa da una specifica componente religiosa debba valere per tutti. Poniamoci per esempio la domanda: mentire è sbagliato? Credo che la maggioranza dei cristiani non abbia dubbi nel rispondere di sì. Se questa è la risposta giusta, come mai allora l'Eterno benedisse le levatrici quando mentirono al tempo di Mosè, Esodo 1, 15-21. Come mai Samuele, per ordine dell'Eterno, non disse tutta la verità quando andò a ungere Davide come re? 1 Samuele 16, 1-4. Se mentire è peccato, perché Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, mentì più volte? 1 Samuele 26-21, 5. Eppure il profeta Geremia al re Sedechia, Geremia 38, 24-28. È stata forse ritenuta colpevole Raab che mentì per salvare le spie? Giosuè 2, 4-6. Anzi, proprio per questo viene ricordata nell'elenco dei campioni di fede. Allora, mentire non è sempre peccato, soprattutto come si può notare nella scrittura. Quando si tratta di salvare la propria vita o quella degli altri perché innocenti. Anche se è moralmente scorretto dire bugie, non condanniamo quelle persone che durante la Seconda Guerra Mondiale ingannarono la Gestapo, piuttosto di rivelare i luoghi dove si nascondevano degli ebrei. Quindi, nei casi in cui è impossibile osservare simultaneamente due leggi morali, la precedenza deve essere data alla più alta delle due. Solo così possiamo essere comprensivi anche con Mihai Wurmbrand, che nel suo libro Cristo o Marx confessa una vita piena di menzogne per salvare la sua vita e quella di altri innocenti sotto la tirannide comunista. Molti interrogativi sorgono anche per gli altri comandamenti, quali non commettere adulterio, non rubare, non uccidere, eccetera. Essi sono meno comprensivi di quanto non si pensi. Il fatto che determinate norme ebraiche siano state e siano tuttora oggetto di discussione e di interpretazioni anche contrastanti, non vuol forse dire che il contenuto di tali norme non è sempre univoco? Nel codice mosaico la condanna a morte veniva applicata per più di 15 offese, mentre molti cristiani oggi sono contrari alla pena capitale per qualsiasi motivo, anche se si trattasse di un omicida reo confesso. Forse la loro moralità è migliore di quella del Dio Trino? Anche Giobbe riteneva che la propria giustizia fosse superiore a quella di Dio. Giobbe 32:3. Tra i cristiani vi è disaccordo su quale sia il giorno di riposo, ma l'Eterno nel dare i 10 comandamenti non ha mai parlato di un venerdì, di un sabato o di una domenica. Egli, conoscendo il futuro, ha parlato indeterminatamente del giorno del riposo o del settimo giorno, giustificando in questo modo ogni scelta di coloro che mettono da parte un giorno su 7 per dedicarlo a Dio e al suo regno. La problematica del divorzio ha da sempre diviso la cristianità. Vi sono coloro che vedono il matrimonio indissolubile, mentre altri approvano la rottura di questo per motivi futili. Ma Gesù non ha mai parlato di una indissolubilità del matrimonio, perché ha ammesso la separazione dei coniugi. Non ha neppure approvato la rottura del vincolo matrimoniale per qualsiasi motivo, ma in caso di fornicazione, Matteo 5, 31-32. Ogni valutazione intorno al matrimonio deve tenere presente questi due aspetti. Possedere e conoscere la legge dell'Eterno non significa quindi avere automaticamente una giusta interpretazione della volontà di Dio. Anche i giudei, benché fossero istruiti dalla legge, Romani 2:18, non avevano capito lo spirito di essa. Giovanni afferma che la legge è venuta per mezzo di Mosè, la verità per mezzo di Cristo, Giovanni 1:17. L'affermazione di Giovanni mette in rilievo una distinzione fra la legge e la verità. La legge è la volontà di Dio espressa nei comandamenti e nelle regole civili e religiose, la verità è una persona. Uno scritto, per quanto perfetto sia, non può mai rendere bene il volere del legislatore. Se io dico ad una persona «ti amo» e qualcuno scrive quello che ho detto, questo qualcuno non può con lo scritto esprimere il tono di voce con cui io ho pronunciato tale frase. Non può ricreare l'enfasi, lo spirito, lo stato d'animo che io sentivo nel momento in cui la pronunciavo. Se l'avessi pronunciata con tono scherzoso, il lettore non potrebbe percepirlo, perciò una frase scritta non può esprimere compiutamente l'affermazione così come è stata pronunciata. Nel suo libro Che cosa è il protestantesimo, osserva Roland Pury, dal XVIII secolo in poi, molti protestanti hanno messo se stessi, la loro coscienza morale ed il loro sentimento religioso a livello degli apostoli. Questi ultimi hanno bensì sempre dominato con la loro statura spirituale e sono stati seguiti come guide, ma quei protestanti si sono messi sul loro piano, in modo che ognuno, con la propria coscienza in mano, è diventato un piccolo successore di Pietro. Credo che in fondo sia questo il motivo, più o meno manifesto, perché vi sono intolleranze nelle comunità riguardo alla morale e alla dottrina cristiana. Il cristiano, nel seguire la verità, pensa di essere diventato lui stesso verità. Un po' come colui che andando al mulino si infarina, ma un conto è infarinarsi, un altro diventare farina. Ci rendiamo quindi conto che anche per interpretare e vivere correttamente la legge religiosa, sia quella del mondo che quella di Dio, occorre un principio guida valido e sicuro. In conclusione, l'uomo, e principalmente il cristiano, è chiamato quindi ad ubbidire alle tre suddette leggi, quella personale, quella civile e quella religiosa. Nel volere con tutto il cuore questo, deve essere però cosciente che in pratica gli è impossibile osservare giustamente ogni legge. I suoi limiti, che derivano da un principio di corruzione che si estende al pensiero, agli affetti e a tutto l'insieme della sua natura, gli impediscono di capire sempre correttamente la volontà di Dio. Comprende allora che, una volta individuate le leggi a cui deve ubbidire, è solo all'inizio, perché ora ha bisogno di un giusto principio guida per poterle osservare bene. Principio guida che stiamo cercando. Ritorniamo quindi alle origini di questa problematica, cioè che la verità si trova al di fuori di noi. Se la cerchiamo è perché non l'abbiamo, non si cerca ciò che si ha. Quindi dobbiamo trovare assolutamente quel principio guida di cui abbiamo bisogno. E come possedere un tesoro in uno scrigno di cui non abbiamo la chiave ci porterebbe alla disperazione. Nelle prossime riflessioni cercheremo di individuare la chiave e il modo di aprire i grandi tesori del Dio Trino. 3. ILIMITIDELLACOSCIENZA. Ci siamo incamminati in uno studio che sapevamo non essere facile, ma il problema etico si pone a noi come una sfida. La coscienza è senz'altro uno dei più bei doni che Dio ha dato all'uomo, ma come spesso succede, più grande è il dono, più difficile è gestirlo. Prima di vedere come gestire questo dono, è utile esaminarlo nella sua natura, vederne alcune caratteristiche, coglierne i vantaggi e gli svantaggi, le sue capacità ed i suoi limiti. Cercheremo prima di rispondere a due interrogativi. 1. Possiamo agire secondo coscienza ed avere comportamenti contraddittori? 2. È possibile essere sereni anche quando si commettono errori che noi stessi giudichiamo tali? 1. Possiamo agire secondo coscienza e avere comportamenti contraddittori? Credo che ad una domanda del genere non spetti a noi uomini rispondere, poiché ci troveremmo a giudicare quello che spetta solo a Dio. È però necessario chiedersi che cosa si intenda per comportamento contraddittorio. Contraddittorio è quell'atto che contraddice un'affermazione. Ma prima di asserire che un comportamento è contraddittorio, bisogna essere cauti. Innanzitutto bisogna sincerarsi di aver capito bene ciò che uno afferma. Un giorno asserivo che il Signore non vuole che facciamo debiti. In seguito venne da me una coppia per dirmi che il mio comportamento era contrario al mio insegnamento perché io stesso avevo stipulato un mutuo. Quando spiegai che il mutuo era simile ad un affitto, allora i coniugi si resero conto delle loro conclusioni sbagliate e addirittura lo fecero anche loro. Secondariamente, occorre tenere presente che siamo tutti diversi. Ognuno per quanto riguarda il bene ed il male, ha reazioni differenti, sensibilità e opinioni diverse, interpretazioni e morali soggettive. Vediamo le cose separatamente. Ognuno di noi ha una reazione diversa di fronte al male. L'Apostolo Pietro scrive nella sua prima lettera: «Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili, perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente». 1 Pietro 2,18. Non tutti reagiscono di fronte all'ingiustizia. Ci sono donne, cristiane e non, che vivono sotto lo stesso tetto con un marito che le picchia continuamente e non pensano neppur minimamente di andarsene. Altre, al primo schiaffo, non ci penserebbero un minuto in più. Dio non chiede a tutti la stessa reazione di fronte all'ingiustizia, perché rispetta la nostra personalità e capacità di sopportazione. Ognuno di noi ha una sensibilità diversa di fronte a ciò che è sbagliato. Un credente che guidando supera il limite di velocità è sereno quanto me che di notte, con il semaforo rosso, in una strada di periferia faccio inversione a destra dopo aver verificato che non c'è nessuno. A proposito, in una di quelle sere in cui ero passato con il rosso, non mi ero accorto che un fratello in fede mi seguiva con la macchina, fino a quando questi mi sorpassò facendomi notare la mia infrazione. Più tardi, egli attraversò un paese superando gli 80 km all'ora. Fui io questa volta a farglielo notare, ma egli rise, quasi a non voler dare importanza alla sua infrazione. E, forse più grave, voltare a destra con il rosso in una stradina di campagna che superare il limite di velocità. Da quanto risulta dalle statistiche, ciò che procura più incidenti è proprio la mancanza di osservanza del limite di velocità. Non conosco un cristiano che osservi il limite di velocità in città, eppure non ha sensi di colpa o convinzione di peccato. Ed è così pure per chi attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, o quando non è il momento. Si potrebbe far notare che ci sono infrazioni e infrazioni del codice stradale, e questo è vero. Proprio perché ognuno di noi ha una sensibilità diversa di fronte a ciò che è sbagliato, sceglie che tipo di infrazione fare. Un cristiano mi ha raccontato quanto segue. Stava andando a trovare suo padre in montagna quando si trovò all'imbocco di una stradina secondaria, dove vi era un divieto di passaggio. Sapendo che non era pericoloso percorrerla e conoscendola come scorciatoia, la prese ugualmente. Quando infine questa stradina tornava a congiungersi con la strada principale, vi trovò inaspettatamente la polizia che lo fermò e gli chiese se aveva visto il divieto. Egli non poteva dire di no, e la polizia gli disse che sarebbero state in questo caso 50.000 lire di multa. Dopo aver fatto il verbale, il poliziotto precisò che gli aveva fatto la multa corrispondente alla mancata allacciatura della cintura di sicurezza, altrimenti la sanzione sarebbe stata molto più salata. Subito il fratello, dentro di sé, si ribellò a questa ingiustizia, perché in verità aveva allacciato la cintura, ma quando si rese conto che la multa per tale infrazione era solo di 15.000 lire rispetto alle 50.000, allora subito accettò lo scambio. Interessante, era passato con un divieto pur sapendolo. E, cosa che più ci colpisce, aveva accettato, unicamente per interesse, una multa che non corrispondeva alla verità. Sono convinto che se la multa per non aver allacciato la cintura di sicurezza fosse stata di 500.000 lire, egli avrebbe invocato giustizia e si sarebbe lamentato parecchio. Dobbiamo accettare questa differenza di sensibilità della nostra coscienza se non vogliamo essere dei giudici fuori posto e farci del male gli uni gli altri. Dobbiamo pure accettare che in ognuno di noi vi è il desiderio segreto di commettere delle infrazioni, infrazioni che noi scegliamo. Se non ammettiamo tale contraddizione, o siamo bugiardi o siamo perfetti. Ognuno di noi ha un'idea o un'opinione diversa su ciò che è male e ciò che è bene. Mio marito non è cattivo, diceva una mia vicina di casa che veniva ripetutamente picchiata da lui al punto da essere portata all'ospedale. È solo un po' nervoso. La mamma dice bugie purché il bambino mangi e trasgredisce il comandamento a non mentire. Lo scolaro copia il compito del suo compagno e trasgredisce il comandamento a non rubare. Spesso ci adiriamo con facilità, trasgredendo il comandamento a non uccidere. Non di rado il giorno del riposo non è santificato, cioè messo da parte per Dio e per il prossimo, e così si trasgredisce il quarto comandamento. Un giorno mi trovavo in viaggio ed andai a trovare un credente. Aveva in casa alcune figlie di un altro fratello in fede e si stava lamentando di esse. Diceva: spero che non me le porti più. Mentre stava ancora parlando, sopraggiunse il fratello in questione chiedendogli scusa per il disturbo arrecatogli. Ma questi gli rispose: portale pure quando vuoi le tue figlie, io ne sono sempre contento. Quando se ne andò, come scusandosi, mi disse: vedi, non si può dire sempre la verità, poiché io amo quel fratello e non l'ho voluto rattristare. Ne dedussi che egli aveva una sua morale, molto diversa dalla mia. Un cristiano riteneva che fosse un peccato riutilizzare i francobolli non annullati su una cartolina, perché secondo la sua morale era rubare allo Stato. Quando il primo ministro inglese Gladstone era costretto a rispondere a lettere personali spedendole gratis dal proprio ufficio, appena tornava a casa distruggeva, per compensazione, uno dei suoi francobolli. Conosco una credente che ritiene sia peccato fischiare il motivo degli inni cristiani. Cosa dire? Un giorno la mia ditta mi mandò, assieme ad un mio collega, a compiere un lavoro in un'altra fabbrica. Venuta l'ora di pranzo, andammo a lavarci le mani e, guardatomi attorno, mi asciugai le mani in un asciugamano che apparteneva a qualche dipendente. Il mio collega mi rimproverò piuttosto severamente del mio gesto, ma lui, prima di andare a casa, rubò con somma indifferenza un pezzo di valore che produceva la ditta. Per i rapitori di Alberto Minervini non è reato sequestrare persone se questo può procurare un certo guadagno. Come siamo tutti diversi! Il nostro bisogno più grande è di vedere le tenebre della nostra morale, perché dall'opinione che abbiano di noi dipende il metodo con il quale giudichiamo gli altri. Ognuno di noi interpreta diversamente i fatti della vita. Due episodi narrati nella Bibbia sono significativi. Per colpa di Achab, malvagio re di Israele, l'Eterno non aveva fatto piovere a lungo. Un giorno il re, sapendo che Elia era colui che aveva detto che sarebbe piovuto solo alla sua parola, lo fece cercare per farlo morire. Dopo molte ricerche Elia decise di incontrare Achab, e questi come lo vide disse ad Elia: «Sei tu colui che mette scompiglio in Israele?» 1 Re 18:17-18. Per Achab era Elia il colpevole della siccità, ma i propri peccati non gli davano il minimo senso di colpa. Il secondo episodio è quello di Saul, che per quasi una vita intera cercò di far morire Davide perché lo riteneva un nemico. Un giorno Saul seppe che Davide si era rifugiato in una città dove molto probabilmente avrebbe potuto farlo prigioniero, ed il suo primo pensiero fu: «Dio lo dà nelle mie mani». Egli era profondamente convinto che Davide fosse un nemico per la causa di Dio. 1 Samuele 23:7. Non vi è dubbio che il peccato rimane peccato, l'errore rimane errore, ma vi sono fatti nella vita che, inevitabilmente, noi giudichiamo erroneamente solo perché siamo guidati da una coscienza limitata e corrotta. Basta pensare che il Papa Gregorio XIII commemorava con gioia il massacro di San Bartolomeo, avvenuto la notte del 24 agosto 1572, in cui morirono migliaia di ugonotti protestanti. Mentre Innocenzo X aveva condannato la pace di Vestfalia, in cui si osava garantire la tolleranza a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro religione. Ognuno di noi ha una morale soggettiva sulla quale costruisce la sua vita. Quello che segue sembra una barzelletta, ma è un fatto vero. Un giorno camminavo con mia madre per la strada, quando ad un tratto ella mi disse: «Guarda quella donna come è vecchia». Dopo averla osservata dissi: «Ma secondo me ha la tua età». «Davvero?» rispose sorpresa mia mamma. «Ma com'è giovane?» «Ci sono persone poi che qualsiasi cosa facciano ritengono di aver sempre ragione, senza il minimo dubbio di poter sbagliare. Forse è proprio per il timore inconscio di sbagliare che necessitano di aver ragione. Ora, avere ragione non è sbagliato, anche se è pericoloso, come afferma Paul Tournier. Ma quando uno si giustifica continuamente dovrebbe accorgersene e preoccuparsi». Esperienze di lavoro. Un giorno vidi un operaio che faceva una cosa sbagliata. Gli chiesi perché, ed egli mi rispose: «Non bisogna menare l'asino dove vuole il padrone». La risposta era più che giusta. Il giorno dopo vidi che svolgeva un lavoro che sapevo chiaramente sbagliato per il datore di lavoro. «Perché ti comporti così?» «Sapendo che il datore di lavoro non lo vuole, e lui pronto, se il tuo padrone ti dice che devi andare nel fosso ci vai, no». E allora? Sembrava avere ancora ragione, ma forse giustificava soltanto il suo orgoglio e la sua ribellione. A volte nel mio lavoro occorre spostare momentaneamente le macchine per saldare. Un giorno, al termine dell'impegno lavorativo, un operaio lascia la macchina fuori posto. «Perché non la metti al suo posto?» gli chiedo. «Quando sono arrivato la macchina era qui, non sono stato io a spostarla», risponde. «Vado allora dall'operaio che l'aveva spostata». «Perché non hai messo al suo posto la macchina?» chiedo. «Perché il lavoro non l'ho terminato io, deve metterla a posto chi lo ha finito», è la risposta. Con queste giustificazioni ognuno crede di poter approvare la propria negligenza. Ci sarebbe molto meno ingiustizia nel mondo se questa non venisse fatta sotto l'apparenza del bene. Ci fu un uomo che era sicuro di non sbagliare e ne aveva tutte le ragioni, perché era riconosciuto dall'Eterno stesso integro, ma era in errore comunque. Si chiamava Giobbe. Egli giura, come vive Dio, di non essere colpevole, e si impone di restare integro. Giobbe 27:1-6. Siamo di fronte ad un credente veramente sincero che difende a spada, tratta la sua integrità, convinto più che mai di non aver sbagliato. Ma più tardi, sotto la potente luce dell'Eterno, si rende conto dei suoi peccati e della sua irragionevolezza. La saggezza dell'uomo sta nel ritenere sempre possibile di poter commettere errori. E per questo che è meglio fidarsi di chi riconosce di poter sbagliare spesso che di chi non è mai in dubbio. 2. Si può restare sereni anche quando si commettono errori che noi stessi giudichiamo tali? A questa domanda io rispondo sì. Un uomo politico dichiarò un giorno: la mia coscienza è abbastanza compiacente da dirmi quello che ho voglia di sentire. A volte la coscienza non ci rimprovera, perché il male lo facciamo con sincerità, con serenità, con convinzione e in tutta coscienza. Vediamo alcuni esempi dalla Bibbia. Sbagliare con sincerità. Davide fa il censimento del popolo, cosa che l'Eterno aveva espressamente detto di non fare, e prova il senso di colpa solo dopo 9 mesi, 2 Samuele 24, 1 e 8, 10. Quante volte abbiamo agito con sincerità? Ma questa non ci ha comunque impedito di sbagliare. Ecco perché Gesù disse: vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Gesù non ha sentenziato che queste persone non erano sincere, si è limitato solo a verificare i fatti. Prova ne sia che molti assassini di cristiani in seguito si convertirono. Sbagliare con serenità. Caino uccide suo fratello e nel compiere il suo atto non ha problemi di coscienza. Giona disubbidisce volutamente all'Eterno ed è il solo che dorme tranquillamente in una nave che sta per affondare. Giuda tradisce Gesù e sul momento non ha alcun problema di coscienza. Un giorno una ragazza credente venne a trovarmi e mi confidò che era fidanzata con un non credente. Però, aggiunse, sono sicura di essere nella volontà di Dio perché, se così non fosse, io sarei turbata. Il Signore non mi lascerebbe serena. Questa ragazza basava il proprio comportamento cristiano sui propri sentimenti, sulla propria serenità. Ma la coscienza è uno strumento che può anche non funzionare, soprattutto quando coesistono sentimenti molto forti, sia nel bene che nel male. Sbagliare con convinzione. Pietro rinnegò Gesù, e solo dopo la terza volta che il gallo cantò si rese conto di quello che aveva fatto. Davide commise adulterio con Bathsheba e fece uccidere il marito di lei, uno dei suoi più valorosi guerrieri, eppure per ben 9 mesi non provò alcun senso di colpa. Abbiamo detto che la coscienza è uno strumento che può anche non funzionare quando la ostacolano sentimenti forti. Questo vale non solo per sentimenti affettivi, ma anche per motivi di interesse, come nel caso di Balaam, il profeta nominato nel libro dei Numeri. Amava talmente il denaro, anche se era persuaso al contrario, Numeri 22:18, che benché l'Eterno gli avesse vietato di andare da Balak, alla fine vi andò, convincendosi che quello che faceva era giusto. Sbagliare in buona coscienza. Davanti al Sinedrio Paolo poté affermare con franchezza: fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Atti 23:1. Con la frase fino ad oggi Paolo intendeva dire che egli aveva agito con coscienza anche quando aveva rinchiuso in prigione molti santi, e non solo. Ma aveva dato il proprio consenso anche quando erano messi a morte. Atti 26:9. Pascal disse: non si fa mai tanto volentieri il male come quando lo si fa per coscienza. Molto probabilmente Pascal aveva in mente l'affermazione di Gesù: l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. Giovanni 16:1-6. Sembra una contraddizione, ma sono proprio le persone religiose quelle che fanno il male molto serenamente. Abbiamo visto la realtà di tale verità, soprattutto nel periodo dell'Inquisizione cattolica, solo perché al Concilio di Tolosa Papa Gregorio IX aveva detto: perseguitare gli eretici è dovere di tutti i cattolici. Fra i grandi inquisitori si ricorda il frate domenicano Tomás de Torquemada, che in 15 anni del suo governo alcuni storici stimano le sue vittime oltre le 100.000, delle quali più di 10.000 furono bruciate. Eppure, secondo gli storici, condusse una vita da santo digiunando frequentemente, egli agiva unicamente per amore di Cristo e devozione al Papa. Anche se Gesù, a mio avviso, non ha abolito la pena di morte, una cosa è evidente: l'Eterno non ha mai comandato la tortura. Dobbiamo accettare ed ammettere che in nome della coscienza si fanno le cose più insensate e orrende, specialmente quando si è convinti di compiere il volere del Dio che ci siamo fatti a nostra immagine e somiglianza. Come abbiamo considerato, la nostra coscienza è incapace ed inadatta a guidarci nel bene. Se qualcuno pensa di vivere solo sulla base della propria coscienza, anche se vive sereno, convinto, sincero, sappia che ciò non è sufficiente. È una filosofia questa, vecchia quanto l'uomo, che Thoreau, verso la metà del XIX secolo, così espresse: «Il solo obbligo che ho il diritto di assumere è di fare in ogni momento ciò che ritengo giusto». Ma la coscienza fa la funzione di sentinella e non di regina, perciò, quando l'uomo rifiuta gli avvertimenti della coscienza, la sua sensibilità diminuisce per poi tacere completamente. Qualcuno ha detto che la coscienza è come un cane da guardia. A forza di vedere passare e ripassare qualcuno, si abitua e non abbaia più. Se accettiamo umilmente questa analisi, siamo costretti a trovare un altro punto di riferimento per la nostra morale. A volte la coscienza viene fatta tacere quando il fine giustifica il mezzo. Saul si giustificò di non aver distrutto il bestiame perché voleva offrirlo all'Eterno, ma Samuele gli rispose: «L'ubbidienza vale meglio del sacrificio». Forse non vi è problema morale più sentito di quando, ubbidendo a Dio, si perdono quelle mete, o risultati anche moralmente utili o desiderabili. Ma il compito dell'uomo è ubbidire alle leggi divine e lasciare a Dio i risultati. Chi non si sottomette a Cristo Gesù non può nemmeno rendere Dio responsabile del suo futuro. Conclusione. Ancora una volta prendiamo atto di quanto diventi indispensabile trovare il principio guida indefettibile per il nostro comportamento cristiano. Questo principio è stato invocato pure, anche se indirettamente, da Luigi La Pozza nella rivista di studi di teologia. Niente dovrebbe distrarci dal fatto che la coscienza è decaduta e non è una guida sicura nelle scelte morali. A volte, la luce degli uomini è oscurata. Chi vi ucciderà crederà di rendere il culto a Dio. In nome della coscienza sono stati praticati dei crimini efferati, dalle persecuzioni dei cristiani di Marco Aurelio, al rogo delle streghe da parte di Cotton Mather, alle prevaricazioni degli episcopaliani sui presbiteriani, alle formazioni paramilitari nell'Irlanda del Nord. Affrontiamo il paradosso di dover ubbidire alla nostra coscienza, pur sapendo che la nostra coscienza sbaglia di frequente. La coscienza ha bisogno della luce della Scrittura e dell'esempio di Cristo. Essa non è autonoma. Anche se giustamente rivendica libertà rispetto all'interferenza di altri, Dio è il suo Signore e la sua parola la vincola all'ubbidienza. Il secondo limite deriva dal primo. Il consenso morale che si riscontra in una data comunità non è una guida sufficiente per il comportamento corretto. Il consenso è un frutto della grazia comune e riflette la coscienza collettiva della società. Rafforza la coesione sociale e indirizza i comportamenti individuali. In molti casi, tuttavia, il giusto diventa ciò che è convenzionale e il bene ciò che è usuale. Il consenso sociale varia e non può essere l'unica norma. Una società può condannare la schiavitù, un'altra permetterla. In una l'adulterio è quasi inosservato, un'altra viene punito severamente. Dunque, il problema di avere una coscienza retta nel giudicare il bene e il male non è solo un fatto personale, ma presente in tutta l'umanità. Occorre dunque trovare disperatamente un principio universale, valido per tutti, approvato da Dio e dagli uomini. Principio guida che stiamo cercando e che sarà il prossimo tema che prenderemo in esame dopo aver considerato i quattro strumenti della coscienza. 4. IQUATTRO STRUMENTIDELLACOSCIENZA. Siamo giunti ormai alla conclusione della nostra ricerca. Abbiamo compreso che la coscienza, benché sia una voce di Dio o lo spazio di Dio nell'uomo, è corrotta per natura, incapace di guidarci sempre nel bene. Uno strumento quindi non sempre sicuro e attendibile. Ma questo non ci deve scoraggiare perché vi è un rimedio. Cosa bisogna fare allora per risvegliare la nostra coscienza in modo giusto? La risposta è, forse più semplice di quello che non sembri, la coscienza va giudicata, investigata, esercitata ed educata. L'autore della lettera agli ebrei scrive al riguardo, ora chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene ed il male. Ebrei 5, 13-14. Il genere umano si divide in bambini e adulti. I bambini non hanno la capacità di prendersi delle responsabilità, seguono le direttive morali e civili dei genitori. Inoltre, non sono in grado di apprendere verità profonde, perciò è necessario presentare il pensiero del Dio Trino in modo elementare. Questo metodo di insegnamento viene ravvisato nel latte, cioè in un elemento di facile assimilazione. Al bambino manca quella perizia che si sviluppa con la maturità e che sfocia nella capacità di fare delle appropriate scelte morali. Gli adulti si distinguono dai bambini proprio perché si cibano di un cibo solido, avendo le facoltà esercitate nel campo della morale. Per giudicare il bene ed il male, la coscienza ha bisogno di alcune facoltà che possono essere intelligenza, riflessione, informazione, esperienza, conoscenza della parola, guida dello Spirito Santo, preghiera, comunione con la Chiesa. La coscienza quindi va educata, cioè istruita, ammaestrata, affinata. Tutti questi verbi danno l'idea dell'opera che il genitore compie verso il figlio, perché abbia un giusto comportamento. Il genitore in questo caso costituisce la volontà, come del resto ha dovuto riconoscere l'Apostolo Paolo quando scrisse, per questo anch'io mi esercito, io mi sforzo, secondo alcune traduzioni, ad avere sempre una coscienza pura, davanti a Dio e davanti agli uomini. Atti mezzanotte e 16. Bambini si nasce, uomini di Dio si diventa con la volontà di esercitare le proprie facoltà. Solo perché abbiamo per natura una coscienza, non significa che essa sia sensibile al vero bene, in quanto una perfetta e buona coscienza è il risultato di uno sforzo, di un allenamento, di un esercizio. Alcuni arricciano il naso perché pensano che non occorra nessun sforzo e sia sufficiente la guida dello Spirito Santo per discernere il bene e il male, ma pur rimanendo vero che senza la guida della persona dello Spirito Santo non è possibile vivere in santità, rimane anche la solida verità che da parte del credente occorra tutto il suo impegno. Pochi credenti hanno compreso che Dio non fa quello che spetta a noi. Una persona analfabeta che diventa figlio di Dio non impara a leggere automaticamente la parola di Dio, solo perché riceve lo Spirito Santo, ma dovrà impegnarsi a studiare. Perciò, se vogliamo avere una coscienza retta, vedo almeno quattro strumenti perché possa essere indirizzata a discernere il vero bene e il vero male. La parola di Dio, il giudizio degli altri, le conseguenze delle nostre azioni, la confessione di peccato. Analizziamo di seguito questi quattro punti. 1. La parola di Dio. Abbiamo considerato che i valori della coscienza mutano col passare del tempo. Tutti siamo relativi. La coscienza è come uno specchio, ci mostra quello che non va, ma non può darci consigli morali sempre giusti. Occorre quindi un aiuto dall'esterno, sicuro, autorevole, assiomatico, e questo non può darcelo che Gesù, perché disse «Io sono la via, la verità e la vita». Egli in questo momento siede alla destra di Dio, non parla con voce umana direttamente all'uomo, perciò si è preoccupato di far scrivere quanto ha insegnato da parte di Dio. Per far svanire ogni dubbio disse «La tua parola è verità, la Bibbia è quindi la parola di Dio, la parola di Cristo. Essa è stata per secoli e secoli la guida morale per chiunque abbia voluto e voglia fare la volontà di Dio. È chiaro che deve essere letta, studiata, meditata perché possa diventare una lampada al piede del cristiano per camminare con sapienza. I veri credenti in Dio che ci hanno preceduti potevano affermare: mediante i tuoi precetti io divento intelligente. Salmo 119:104. Mi rendo conto che posso dare l'impressione di affrontare l'argomento in modo semplicistico, Perché tutte le grandi religioni hanno libri sacri o scritture. Perché la Bibbia e non il Corano dei musulmani, i Veda e Yang degli Hindu, gli Avesta dei Parsi, i Granth dei Sikh, i classici cinesi o i testi sacri dei giapponesi? Se i cristiani credono che solo la Bibbia sia l'inerrante rivelazione di Dio e credono che lo Spirito Santo abbia guidato gli autori a scegliere le singole espressioni, se credono che Dio li abbia preservati dall'errore e abbia rivestito il loro messaggio scritto dell'autorità divina, lo fanno a ragion veduta. Nessun risultato della scienza, dell'archeologia, della fisica, della geologia o dell'astronomia si trova ad essere in contraddizione con la Bibbia. Non solo, rimane semplicemente prodigioso il fatto che la Bibbia, nonostante descriva la natura, la creazione, gli astri, la luce, l'atmosfera, gli elementi, le montagne, gli animali, le piante, e parli di Israele e si riferisca ai grandi imperi attorno alla Palestina con i loro re, le loro guerre, i loro governi, lo faccia con esattezza. Mentre gli errori più grossolani sul mondo fisico, come sulle divinità, si trovano in Omero, nella mitologia greco-romana, nei libri degli Hindù, nelle tradizioni buddiste e musulmane. Anche i filosofi antichi più geniali, come Aristotele, Platone, Plinio, Plutarco e Lucrezio, hanno scritto delle assurdità ormai più che provate. E, quindi, la Bibbia, il solo libro che dovrebbe regolare, sensibilizzare, filtrare la coscienza dell'umanità, anche se le altre religioni non sono completamente vane e senza valore. È vero, come abbiamo dimostrato, che l'interpretazione che ne danno i cristiani è relativa, ma rimane comunque sempre la verità, l'unica guida indefettibile per la morale, coadiuvata ovviamente da altri elementi che valuteremo. Per guida infallibile non si intende naturalmente l'interpretazione del credente. L'inerranza consiste nella sua stesura e non nella sua lettura. La storia è piena di innumerevoli santi che hanno propagato un'infinità di eresie. Tanto per citare due grandi interpreti, Agostino affermava che la teoria degli antipodi era contraria alla scrittura. Origene si fece virare perché interpretò la lettera Matteo 19 e 12. Nessuno, neppure la Chiesa, è interprete infallibile della Bibbia. La Chiesa è sì, colonna e sostegno della verità, 1 Timoteo 3 e un quarto, ma pretendere che sia la verità o che ne sia la depositaria equivale a sconfinare nell'illecito. Tutti gli storici sono d'accordo che, dopo l'epoca apostolica, la Chiesa precipitò nell'errore e nelle contese. La stessa religione cattolica romana, che si definisce la Chiesa cattolica apostolica romana, la quale, secondo una sua interpretazione, Cristo l'avrebbe resa partecipe della propria infallibilità, ha confessato più volte di aver commesso degli errori nel passato. Che la Bibbia sia inerrante lo dimostra il fatto che lo Spirito Santo la usa come strumento per convincere di peccato, come sta scritto: la spada dello Spirito è la parola di Dio, Efesini 6 e 17. E ancora, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Ebrei 4, 12, 13. È stato detto che lo Spirito Santo è Dio che legge la Bibbia, 1 Corinzi 2 e 10. Perciò, se vogliamo udire la voce di Dio, Giovanni 5 e 37, dobbiamo incontrarlo nella lettura della sua parola. Non vi è alternativa. Chi desidera camminare in pura coscienza deve compiere l'atto di volontà di leggere giornalmente la parola di Dio, perché se non è cinto di questo proposito, egli non parte con una buona coscienza e non può pretendere che tale coscienza venga purificata. Chi non si sforza di scoprire la volontà di Dio rimane nell'ignoranza, e questa è molto vicina a un'irresponsabilità criminale, per usare un'espressione di Gerard Hauer. Leggiamo ancora in Ebrei 9, 13-14. Se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, in modo da procurar la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il sangue di Cristo equivale alla sua opera di incarnazione, redenzione, resurrezione e glorificazione. La vita di Cristo e il suo insegnamento sono necessari per purificarci, cioè insegnarci ad evitare ciò che è sbagliato, e per servire in modo nuovo il Dio vivente e trino. Conosco persone che si vergognano di pronunciare delle parole volgari mentre non sentono il minimo senso di colpa nel bestemmiare. Persone pie, che vanno quasi ogni giorno al cimitero per curare la tomba di un familiare, e trascurano vistosamente i doveri coniugali. E la parola di Dio che mette ordine nella nostra morale e ci purifica da una coscienza cattiva. Essa deve avere l'autorità di giudicare e condannare la nostra etica e la nostra cultura. Sono perplesso nell'osservare come certi cristiani stiano facendo salti mortali per dimostrare la liceità dell'omosessualità, quando questa viene espressamente condannata dall'Eterno, Levitico 18 e 22, 20 e 13, e dagli Apostoli, Romani capitolo 1, al punto che Pietro ricorda che l'Eterno condannò alla distruzione le città di Sodoma o Gomorra, riducendole in cenere perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, 2 Pietro 2,6. Se quello che l'Eterno ha fatto non serve di esempio per noi, allora siamo come quelle donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità, 2 Timoteo 3, 6-7. Confessare l'autorità della Scrittura ha un valore relativo se essa non è pure normativa per l'etica, perché quando uno lotta come atleta non riceve la corona, se non ha lottato secondo le regole, 2 Timoteo 2,5. Anche Pietro, ancorato nella sua tradizione religiosa, non voleva per coscienza rendersi impuro quando Dio gli chiese di mangiare animali impuri, ma Dio gli fece vedere quello che doveva fare. Con fatica accettò le circostanze della vita e, davanti agli altri giudei, dovette confessare: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è gradito. Atti 10,34. E così Davide, quando peccò di adulterio ed omicidio, non fu convinto di peccato, finché il profeta Natan non gli disse da parte dell'Eterno quello che aveva fatto. E, stata la parola profetica che gli mostrò il proprio errore. Così, un cristiano che non legge ciò che Dio ha rivelato e non permette che venga messa in discussione la sua morale, non può riconoscere i propri errori. E la parola di Dio che può farci vergognare di una condotta sbagliata, Romani 6 e 21. Un esempio come sia possibile sostenere di essere cristiani, di seguire la parola di Dio e poi non permettere al Dio della parola di convincerci di peccato, di mettere in discussione la nostra morale, l'ho trovato nel periodico con contenuti cristiani di riforma del 26 gennaio 2007, nel quale una donna rivolge allo stimato teologo Paolo Ricca una domanda più che pertinente al nostro tema. Questa è la sua domanda. Mi chiedo spesso che cosa sia oggi peccato. I pastori del passato ci hanno insegnato chiaramente che cosa era un peccato. Oggi ci è un po' di confusione e comunque nessuno tiene il giudizio. Sembra quasi che quello che era considerato peccato oggi non lo sia più. Per esempio, leggo in Levitico 20.1.3: se uno ha con un uomo relazioni sessuali, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole. E così, se è chiaro il non rubare, anche questa valutazione è chiara. Oppure no, io credo che i valori cambiano, perché Satana si dà un gran da fare. Ma quello che Dio diceva al suo popolo 3000 anni fa vale anche oggi. Oppure la morale cambia a seconda del vento e la religione si adegua per paura di perdere terreno. Io credo che le scelte etiche debbano essere limpide anche nel campo sessuale e, per il credente ispirate dall'insegnamento biblico, adattare la Bibbia alle nostre esigenze vuol dire accantonare la parola di Dio. Sinceramente, lei come la vede? Anna Sconfietti. La risposta del professore iniziava così: anch'io come lei, lettrice Sconfietti, mi chiedo spesso che cosa sia oggi peccato. Stabilirlo sembra la cosa più semplice del mondo, invece è una delle più difficili. E dopo due colonne di ragionamenti, Paolo ricavò già il termine della sua disamina con queste parole. Dicendo questo, non mi voglio sottrarre alla sua domanda specifica. Lei mi chiede di dirle, sinceramente, se l'omosessualità sia un peccato, oppure no. Le dirò, sinceramente, che, secondo me, non lo è, anche se so benissimo che la Bibbia lo considera tale. Ma perché la Bibbia considera l'omosessualità un peccato? Perché gli autori biblici ritenevano che l'omosessualità fosse una scelta. Noi oggi sappiamo quello che gli autori biblici non sapevano, e neppure lontanamente supponevano, e cioè che l'omosessualità non è una scelta, ma una condizione. E questo cambia tutto il discorso. Ma allora che dobbiamo dire? E soprattutto cosa fare? Che cosa è peccato? Qual è la legge divina trasgredendo la cosa fa? Quale si commette peccato? Risponderò in due tempi. In primo luogo, la legge divina sono i 10 comandamenti dati da Dio al popolo attraverso Mosè. In secondo luogo, sappiamo tutti che Gesù ha dato 2 soli comandamenti che poi in realtà ne costituiscono uno solo: amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come noi stessi. Chi non ama, pecca. Il peccato non è amare. Chi invece ama dimora nell'amore e chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 1 Giovanni 4.16. Dunque anche un teologo come Paolo Ricca riconosce cosa sia il peccato, ma per lui non lo diventa per una serie di ragionamenti, il primo del quale perché gli autori biblici non sapevano quello che sappiamo noi. Questo primo aspetto mette subito in evidenza l'opinione che ha il professore della Bibbia. Egli la ritiene sì quale parola di Dio, ma soggetta ai limiti dell'uomo, tanto è vero che gli scrittori biblici, meno come ogni altra creatura umana, erano limitati nella conoscenza e perciò meno sempre, secondo il teologo, meno soggetti a scrivere cose sbagliate. Ma se questa fosse la mia opinione, allora tanto vale avvalersi di qualsiasi altro testo sacro dove, umanamente parlando, possiamo trovare dei principi apparentemente superiori a quelli di Dio. Ma gli scrittori biblici non hanno scritto secondo le loro opinioni perché erano ispirati da Dio. Mediante lo Spirito Santo, diversamente le profezie, tanto per fare un solo caso, sarebbero state il frutto delle loro opinioni, mentre l'Apostolo Pietro scrive molto chiaramente: nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà di uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo. 1 Pietro 1.21. E per profezia non si intende solo prevedere cose future, ma tutto ciò che è stato scritto nell'Antico Testamento. Inoltre, il teologo Paolo, che omosessuali si possa nascere è un dato di fatto, ma che sia sempre lecito esprimere le proprie inclinazioni non sta da nessuna parte. Se per natura ho l'inclinazione a diventare un musicista, può andare bene. Ma se nasco con l'inclinazione del cleptomane, cioè quello di rubare, allora le cose cambiano. Non mi è lecito esprimere le mie inclinazioni naturali se queste violano le leggi divine, così come non è lecito per un omosessuale esprimere la sua sessualità perché, come riconosce Paolo Ricca, è un peccato per Dio. Che poi Paolo Ricca termini con il concetto dell'amore, che bisogna amare perché Dio è amore, anziché chiudere il discorso, in verità lo ha aperto. Cosa si intende per amore? Cosa significa amare il prossimo? Se amare il prossimo significa fargli fare quello che vuole, questo è contrario ad ogni regola umana. Perché ai figli per amore si rifiutano tante richieste e gli si impediscono di compiere cose sbagliate, che farebbero secondo le loro inclinazioni naturali, se invece per amore si intende, come dice la parola di Dio, correggere il prossimo quando sbaglia, allora amare gli omosessuali significa dire che ciò che fanno è sbagliato. Essere omosessuali non è peccato, come non è peccato essere dei cleptomani, ma il peccato sta nell'assecondare inclinazioni contrarie al volere di Dio. Dunque, è veramente inutile chiedere a Dio la sua volontà quando trascuriamo di leggere e di accettare ciò che Egli ha ordinato. Quando gli accusatori della donna adultera insistevano per condannarla, furono convinti di peccato dopo che Gesù ebbe loro parlato. Quando chiediamo a Dio di convincerci di peccato, non siamo sinceri se poi non usiamo lo strumento mediante il quale Egli ci può parlare. Così come è inutile chiedere a Dio di conoscere la sua volontà quando non mettiamo in pratica quello che già conosciamo. Quello che non va in noi, fondamentalmente, non è il fatto di non conoscere la luce, ma di non reagire alla luce che già abbiamo. Una coscienza pura comincia con l'ubbidire a ciò che ha già accertato essere vero, in attesa di maggiori rivelazioni a cui sottomettersi. Se questo non è il nostro comportamento, possiamo fare la stessa esperienza di Balaam, l'indovino, che per amore del denaro fu disposto a maledire il popolo di Israele. Egli chiese all'Eterno se questo fosse il suo volere, ma avendogli Dio risposto negativamente, glielo chiese una seconda volta, e allora l'Eterno assecondò il suo desiderio. Quando preghiamo con questo atteggiamento, la corruttibilità della nostra coscienza ed anche Dio stesso tenderanno a suggerirci ciò che noi vogliamo sentirci dire. Così come Balaam, in coscienza, ci si incamminerà in una strada non approvata da Dio, e solo un suo intervento più decisivo e drastico potrà riprendere una coscienza ormai erroneamente convinta del consenso da parte di Dio. Leggiamo nel libro dei Proverbi: chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. Proverbi 28:26. L'insegnamento è chiaro: quello che suggerisco nel proprio cuore e la volontà di Dio non sono sempre la stessa cosa. Questa divergenza e contrasto devono spingerci umilmente ad accettare la dichiarazione dell'Eterno, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie. Sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55:8. Perché questa dura sentenza sulla nostra morale? Siamo proprio alla deriva senza la parola di Dio? Purtroppo sì, perché il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, ed insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17:9. Ancora una volta, il ragionamento umano può essere di ostacolo alla rivelazione divina. Si dice che la speranza è l'ultima a morire, e questo vale soprattutto per quella riferita alla nostra incapacità di valutare in modo corretto il bene ed il male. Proprio per questo motivo molti uomini pii dell'Antico Testamento venivano lodati non perché sapevano fare il bene, ma perché facevano ciò che è giusto agli occhi del Signore. 2 Re 12, 2, 14, 3, 15, 3, 15 e 34. Per l'Eterno il ribelle non è necessariamente il dissoluto, l'immorale, ma chi segue la propria logica. Ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle, che cammina per una via non buona, seguendo i propri pensieri. Isaia 65:2. I nostri parametri morali non sono sempre la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Credo che intellettualmente ogni cristiano sappia questo, ma di fatto si comporta diversamente. Molto obiettiva è stata l'analisi che ha fatto Tony Lane nel suo libro Compendio del pensiero cristiano, nell'esaminare la vita di Calvino. Era intollerante e prendeva per scontato il fatto che l'opposizione al suo insegnamento non era altro che un'opposizione alla parola di Dio, una pecca, questa, comune a tanti altri dei suoi tempi e dei nostri. In effetti, uomini del genere sanno come produrre coscienza e decidere che genere di coscienza produrre. Forse è per questo che qualcuno ha pregato: Signore, quando ho torto, dammi la forza di cambiare. Quando ho ragione, fa che sia facile vivere con me. E, inutile, l'uomo intransigente e settario non è colui che crede nella verità, ma chi pensa di possederla. Per cui diventa intollerante verso ogni opinione contraria. Con questo non intendo sostenere che tutto è relativo, perché sta diventando sempre più intellettualmente rispettabile confessare ciò che è relativo anziché ciò che è vero, ma desidero affermare con assoluta convinzione che la verità rimane la parola di Dio e non l'interpretazione del credente. Non dobbiamo confondere gli assoluti del Dio Trino con le nostre convinzioni. Può darsi che non sempre siamo convinti che fare la volontà di Dio sia la cosa migliore o che fare una cosa contraria a ciò afferma, il Dio della parola sia veramente sbagliato. Ma, se la nostra coscienza, per fede, segue il volere di Cristo, sarà purificata al punto tale che essa si troverà in sintonia con ciò che Dio vuole. E se alla fine, dopo aver fatto la volontà di Cristo, la mia coscienza continua a non lasciarmi sereno, se esiste una scissione da me stesso causata dalla mia natura peccatrice, allora devo dire con l'Apostolo Giovanni: se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Ecco, la serenità della coscienza di un cristiano. Egli continua, con fiducia, a compiere il volere di Dio, sia che la coscienza lo approvi, sia che non lo approvi, perché il volere di Dio in Cristo è più perfetto della voce della coscienza. Potrebbe essere difficile per un cristiano, specialmente se è giovane e nubile, riconoscere un criterio di ragionevolezza nel limitare il rapporto sessuale solo nell'ambito del matrimonio, ma anche se non riesco a giustificare come buono, né per me né per gli altri, un certo comandamento, una cosa è buona perché la vuole Dio. L'importante non è essere sempre convinti dell'esattezza morale di una data azione, ma è quello di sapere che si sta eseguendo la volontà di Cristo. E questo è quello che la Scrittura chiama il timor di Dio. Per Israele, il timore dell'Eterno era non solo il primo principio della sapienza, ma anche dell'etica. Se oggi la parola amore ha perso il suo significato è perché non è stata collocata nell'ambito della verità, cioè della parola di Dio. Sembra strano, ma sono pochi coloro che hanno compreso, o forse accettato, che l'amore senza la verità non può essere amore, anche se i loro sentimenti sembrano affermare il contrario. L'amore e la verità devono camminare insieme. Così si esprime la parola di Dio. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Proverbi 3, 3. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, Efesini 4 e un quarto. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Come pure chi non ama suo fratello. 1 Giovanni 3 e 10. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti e in verità. 1 Giovanni 3 e 18. Se vi è solo amore, si cade nel sentimentalismo, come si sbaglia se vi è solo verità, perché si cade nell'assolutismo, nel fariseismo. La sola verità può fare tanto male quanto il solo amore. Molti sono caduti nel settarismo, ma le vittime maggiori sono coloro che sono schiavi dei loro sentimenti espressi al di fuori della verità. Un giovane che esprime il proprio amore, scrivendo sul muro di una casa Marta ti amo, non si rende conto che viola un principio sociale, imbrattare il muro di un altro. Due giovani che si baciano appassionatamente in pubblico obbligano i passanti a vedere scene intime, trasgrediscono principi divini e il loro amore non è da considerarsi né giusto né lecito. Chi ha rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, anche se motivati dal più profondo sentimento di amore, trasgredisce la volontà di Cristo e quindi non cammina nella verità. L'omosessuale che ha rapporti sessuali dà corso ai suoi sentimenti, li difende a spada tratta, proclama il proprio innamoramento con la più grande naturalezza, perché è fiero di tale sentimento. Ma non si rende conto che vive una vita sentimentale al di fuori della volontà di Dio. Chi non comprende il pericolo dei propri sentimenti e del proprio amore è esposto al più grande fallimento della propria vita. La coscienza è come un orologio solare, funziona soltanto quando ci è la giusta sorgente di luce, il sole. E il nostro sole è la Scrittura. È dunque la parola del Dio Trino l'unica vera luce, che regola, plasma, approva, giustifica o ratifica la nostra morale e il nostro amore. Una parola che rende, per usare l'espressione di Lutero, prigioniera la coscienza. Per la tua luce noi vediamo la luce. Salmo 36, 9. Se così non è, la coscienza può diventare il nostro Dio o il nostro idolo. l'ultima divinità soprattutto per quei credenti che hanno perduto la fede. Per non cadere in questa trappola, questo spazio di Dio nell'uomo deve fare spazio alla parola del Dio Trino. 2. Considerare il giudizio degli altri. Il libro dei Proverbi è una miniera di saggezza. È stato scritto per dare insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Proverbi 1. 3 a 4. Dal momento che nessuno di noi nasce saggio, è altresì chiaro che nessuno di noi può fare a meno dell'insegnamento di questo libro. Il non leggerlo equivale a privarsi di gran parte della conoscenza della volontà di Dio. Tra i suoi insegnamenti, il libro dei Proverbi invita il lettore a non fidarsi delle proprie convinzioni, ma ad ascoltare il parere altrui e le sue riprensioni. Ecco due proverbi, come esempio. La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio, mezzogiorno e un quarto. Chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. 12.1. Il messaggio è chiaro. Chi odia la riprensione è uno stupido e chi ascolta i consigli è saggio. Perché? Perché uno dei compiti principali di Dio come padre verso i suoi figli è proprio la correzione e la riprensione. Vale la pena rileggere uno dei brani più significativi al riguardo. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne, che li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno. Ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Ebrei 12.4. Tutti siamo d'accordo sul contenuto di questo brano, ma non a tutti piace il modo in cui Dio ci corregge e ci disciplina. Egli non usa una voce dal cielo per parlarci, quindi deve usare altri strumenti. Uno di questi è certamente la sua parola, e questo strumento viene anche accettato. Ma Dio non è legato o vincolato ad un solo strumento, perciò se usa gli uomini come mezzi per proclamare l'Evangelo, li usa pure per correggere i suoi figli. Forse questo è il metodo più fastidioso, ma è pure quello più comune che Dio utilizza. Egli si serve di cristiani per correggere la coscienza di altri cristiani, come è scritto. Il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Proverbi 27.17. E questo per due ragioni. Prima di tutto perché è più facile vedere gli errori degli altri che i nostri. Le colpe sono come i fari delle automobili, ci abbagliano solamente quelli degli altri. Inoltre occorre ricordare costantemente che la natura dell'uomo è corrotta. Quando Paolo scrisse «Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure». 1 Timoteo 1:15, intendeva affermare che contaminati e increduli si nasce, mentre puri si diventa. I cristiani hanno bisogno di tempo per arrivare ad essere puri, hanno bisogno di essere forbiti dal ferro del prossimo. L'altro è un dono di Dio per fissare nella mia vita dei limiti al mio potere e alla mia libertà, e perché mi aiuti a crescere. Nel suo libro La via del Calvario scrive Roy Ession: ognuno di noi ha un grande bisogno dell'altro, perché ci sono molti sentimenti oscuri nell'intimo della nostra anima che non riusciamo a scoprire da soli. Dobbiamo quindi dare a Dio la possibilità di servirsi di un altro perché ci aiuti in un'opera di purificazione interiore. Così pure Gerhard Hauer termina il suo libro, La mia educazione e la mia professione mi hanno aiutato molto nello sviluppo personale, nel matrimonio e nella famiglia. Ma le correzioni significative e i punti critici della mia vita sono venute attraverso la Bibbia e il ministero di altri verso di me. Parole vere, di saggezza, di umiltà. Com'è più facile onorare un profeta morto che uno vivo? Così è più facile lasciarsi riprendere dalla Scrittura che da un uomo che è simile a noi. Eppure Dio parla anche tramite gli altri. Vi sono cristiani che sono attenti a quello che Dio dice a loro per trasmetterlo agli altri, ma non sono altrettanto attenti a quello che Dio dice agli altri per loro. La prima reazione è la difesa, la giustificazione, la scusa. Una vignetta umoristica. Ho costruito un robot che si comporta come un uomo meno. Davvero? Vuoi dire che può pensare come noi? Trattino punto. No. Ma quando sbaglia, dà la colpa ad un altro meno. È difficile accettare, soprattutto in una civiltà individualistica come la nostra, che esista un cristianesimo da vivere anche a livello orizzontale e non solo a livello verticale. Coloro che pensano di dover rendere conto solo a Dio hanno una fede individualista lontana dallo spirito del Vangelo e ingannano se stessi. Chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto, 1 Giovanni 4:20. Un marito, una moglie, un credente che ascolta solo Dio, vive di un ideale che non esiste, manca di uno spirito comunitario, diventa permaloso verso tutti, serba rancori, amarezze che gli impediscono di vivere nel corpo di Cristo. Sta scritto, chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Proverbi 18:1. La Chiesa, cioè l'insieme dei figli di Dio, non è un optional, un accessorio del quale tu puoi fare a meno, ma è parte della tua fede, del tuo essere cristiano. Essa è stata istituita da Dio come luogo di edificazione, di servizio, di protezione contro la corruzione del mondo. Alcuni sono usciti fuori dalla vita comunitaria perché stanchi di problemi, di riprensioni, di scandali, ma hanno finito con l'avere un'esistenza ancora più problematica, con più sofferenza e con meno benedizioni. La ragione è molto semplice. Non esistono problemi sociali, ma solo personali. Chi non riesce a risolvere i suoi problemi con persone a lui vicine, non può cercare la soluzione presso persone a lui lontane. Molti di questi hanno poi finito con il non provare più nessun sentimento per le cose di Dio, vivendo una vita priva di interesse per il prossimo, abituati solo a preoccuparsi di essere sereni nella propria coscienza. Ma è meglio lottare con Cristo che essere in pace con il diavolo. Sento cristiani che dicono faccio solo ciò che io trovo giusto. Non mi importa quello che pensano gli altri. A me basta essere in regola con il Signore. Affermazione che ha una parvenza di santità, un alto livello morale, ma nasconde una grossa insidia. L'orgoglio. Prima di tutto, chi si esprime così non è detto che sia in regola con il Signore. Al massimo è in pace con la sua coscienza, ma, come abbiamo considerato, vivere in armonia con la propria coscienza non significa automaticamente essere nella volontà del Dio Trino, perché, oltre alle norme personali, è necessario essere sensibili alle situazioni. Inoltre, chi pensa così rincorre un'utopia, perché tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Fare solo ciò che si crede legittimo senza tenere in considerazione l'opinione del prossimo significa prima di tutto pensare, consciamente o inconsciamente, di essere in grado di valutare sempre in modo giusto ogni situazione morale della vita. Questo atteggiamento nasce dall'orgoglio che porta a creare punti con il prossimo. Si disprezzano le opinioni altrui, ritenendosi completi e quindi non bisognosi degli altri. Raramente le persone migliorano quando non hanno altri modelli all'infuori di sé. Un cristianesimo ridotto ad uso individuale è una contraddizione di termini. Vi sono due cose, disse Paul Tournier, che non possiamo fare da soli. Sposarci ed essere cristiani. Sì, il cristianesimo è un gioco di squadra, altrimenti si è fuori come un balcone. La rivelazione personale deve tener conto anche del contesto della Chiesa nel quale si vive. Le diversità di opinioni all'interno della Chiesa non devono essere ragioni di divisione. La Scrittura In proposito afferma, perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Romani 15:7. In una comunità che vive la sua eterogeneità è indispensabile questo principio. La diversità di convinzioni non deve costituire una barriera che impedisce ai credenti di vivere in comunione. Quando si tratta di errori dottrinali o di condotta immorale, la Scrittura ci chiama a separarci. Quando si tratta di diversità di convinzioni o opinioni, Romani 14:1 sta scritto: accoglietevi. Ciò è possibile solo se non confondiamo le convinzioni personali con gli assoluti del Dio Trino. Vi è ancora un'ulteriore riflessione da aggiungere. Non solo dobbiamo fare tesoro delle opinioni e delle riprensioni del prossimo, ma dobbiamo pure imparare dagli errori degli altri. Noi non possiamo vivere tanto a lungo da commetterli tutti. 3. Osservare le conseguenze delle nostre azioni. Può accadere che la parola di Dio non ci dica più niente, perché ormai siamo diventati duri di orecchi. Può anche succedere che quello che ci dicono gli altri non ci convince, ed allora continuiamo per la nostra strada sbagliata. Sembra che ormai non vi sia più possibilità alcuna perché la nostra coscienza corrotta venga scossa. Ma vi è un altro segnale che dovrebbe fermarci nel nostro modo sbagliato di procedere. Osservare il risultato delle nostre azioni o le reazioni del nostro prossimo. Nessuno di noi è un'isola. Ciò che facciamo ha sempre una ripercussione nella società, o in bene o in male. Come diceva Elihu a Giobbe, la tua malvagità non nuoce che al tuo simile, e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Giobbe 35:8. Il giovane che si droga, l'uomo che si ubriaca, hanno bisogno degli altri, di assistenza, che sarà pagata da altri membri della società. Noi quindi siamo in obbligo non solo di esaminare le nostre azioni, ma dobbiamo pure tenere presenti il bene o il male che esse producono nella società. La ragazza che si innamora di un uomo sposato non può pensare solo al suo sentimento, considerato che una sua eventuale relazione farebbe soffrire una moglie, dei figli e dei parenti. Un marito o una moglie, il cui comportamento rovina l'armonia coniugale, non può chiudersi nella sua cittadella morale e restare sereno. Un figlio che turba i genitori deve mettere in discussione la sua etica, anche se, caratteristica della pubertà, è fortemente convinto delle sue convinzioni. Così pure quei conduttori di chiesa che non attirano anime a Dio o smembrano la comunità devono mettersi in discussione, scendere dal pulpito della loro morale e rivederla alla luce dei fatti. Ma occorre fare un'ulteriore riflessione. Abbiamo compreso che non siamo tutti uguali e che Dio rispetta la nostra coscienza al punto che un'azione ingiusta per me può essere giusta per un altro, o viceversa. È anche vero però che se un'azione giusta per me produce turbamento al prossimo, diventa peccato se continuo a compierla. La liceità morale si deve sposare all'utilità comune. I primi cristiani avevano due grossi problemi, la circoncisione e le carni sacrificate agli idoli. Riguardo alla circoncisione, il problema si risolse al Concilio di Gerusalemme, dove gli apostoli e gli anziani non imposero a nessuno tale rito. Delle carni offerte agli idoli, benché l'ordine era di astenersi, il problema era più complesso. Forse è per questo che Paolo, di tanto in tanto nelle sue lettere, affronta questo argomento. Io so, e sono persuaso nel Signore Gesù, che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere, con il tuo cibo, colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Romani 14, 14-22. Paolo è esplicito. Anche se la mia coscienza non mi rimprovera nulla, per Dio non è sufficiente. Egli vuole che io consideri anche quella del mio fratello. L'importante, quindi, non è solo ciò che io penso o ritengo giusto, ma valutare anche il risultato della mia morale con chi convivo. Come non è da Dio una fede espressa in modo giusto ma che fa inciampare il fratello, come non è da Dio una cosa lecita ma che non edifica, 1 Corinzi 10 e 23, così una convinzione anche legale che porta alla divisione in una chiesa non è né legittima né da Dio. Tale sapienza è carnale, terrena, diabolica. Giacomo 3 e un quarto. Parole forti, ma non le ho espresse io. Si tratta solo di crederci. Chi ci crede dubiterà di se stesso, cercherà di comprendere la sua parte di errore e si allontanerà da questo malsano comportamento. Chi non crede a questa sentenza continuerà per la sua strada, producendo morte e distruzione. Esaminiamo la giustezza di un comportamento e della nostra fede, ma dobbiamo anche fare molta attenzione a ciò che producono le nostre convinzioni, perché il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, Romani 14 e 17. Se il mio agire è dannoso per il prossimo, devo tenere per me quelle convinzioni che tendono a dividere ed evitare di usare la mia libertà di coscienza. Questa è la libertà del cristiano liberato e libero. 4. La confessione di peccato. Rimane un ultimo passo da compiere perché la nostra coscienza possa diventare irreprensibile nel valutare il bene e il male, confessare il peccato commesso. Ho posto questa condizione per ultimo non perché sia la meno importante, ma perché difficilmente si può ammettere di aver sbagliato se non dopo essere stati convinti dalla parola di Dio, dopo aver considerato l'opinione del prossimo e valutato le sue reazioni. Tutto questo posto davanti a Dio in uno spirito di preghiera porta alla convinzione di peccato. Confessare il peccato sembra che sia una delle verità bibliche dimenticate da molti cristiani, nonostante la scrittura si esprimi chiaramente: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri. Giacomo 5,16. Non solo, ma sembra che il concetto di peccato lo si voglia abolire. Una commissione di studio della Chiesa anglicana ha avanzato la proposta di abolire l'espressione «vivere nel peccato», preferita alle coppie non regolarmente sposate. Ma non è adattando la legge di Dio alla nostra morale che si aiuta la coscienza. Non vi è nessun vantaggio per l'uomo nel nascondere o non confessare i suoi errori, perché un peccato non confessato produce una dissonanza totale in un essere. Infatti il peccato in definitiva è la disarmonia da Dio, dagli uomini e da noi stessi. Estremamente interessante è ciò che scrive Paul Tournier nel suo libro La medicina individuale. Io ho avuto la curiosità di rileggere i 260 casi clinici che il Freud cita nel suo libro sulla psicopatologia della vita quotidiana. Tutti, senza eccezione, si riallacciano a uno dei quattro aspetti del peccato che sono descritti nel discorso della montagna. 57 dipendono dalla disonestà, 39 dall'impurità, 122 dalla preoccupazione di sé, 42 dalla mancanza d'amore e il peccato che rende difficile la vita umana e se non è confessato con l'intenzione di abbandonarlo, non solo procura seri danni alla vita fisica, morale e spirituale, ma impedisce una maggior comprensione di Dio e di noi stessi. Sta scritto: il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo, finché sia giorno pieno. Proverbi 4:18. I giusti, in questo caso, non sono solo coloro che fanno la volontà di Cristo, ma anche coloro che confessano il peccato man mano che lo Spirito Santo glielo rivela. Perciò ad un peccato confessato ne viene mostrato un altro. In questo modo, la coscienza purificata si purifica sempre più. Stando all'immagine del libro dei Proverbi, una coscienza che confessa ad alta voce la propria colpa, prima riconoscerà i peccati più grossolani, poi, via via che confessa, vedrà peccati sottili e subdoli di cui egli sarà il primo a stupirsi. Conosco dei credenti meravigliosi con un carattere amabile, intelligenti, sensibili, virtuosi, ma la cui vicinanza mi ha sempre imbarazzato, O peggio, mi sono chiesto spesso il motivo di questo mio disagio, e con l'andare del tempo ho compreso che il tutto si riduceva ad una sola cosa. Non avevano convinzione di peccato. Senza saperlo mi trovavo nella situazione espressa magistralmente da Robert Neville. Vivere con un santo è molto più estenuante che esserlo. Con questo non intendo dire che questi credenti credessero di essere perfetti, perché non sarebbero né intelligenti né sensibili, ma nella loro vita la convinzione di peccato, quella convinzione dopo la quale non sei più lo stesso con la relativa confessione, era un'esperienza lontana e rarissima. La stessa santità può diventare uno scudo e un motivo di orgoglio quando non è accompagnata di tanto in tanto da confessione di peccato. Perciò una coscienza si purifica non solo nel camminare rettamente, ma soprattutto nel riconoscere, confessare e abbandonare tutto ciò che è contrario alla parola di Dio. Quando Gesù disse che ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento, si riferiva riguardo ai giusti, anche a coloro che vivevano da virtuosi senza avere convinzione di peccato. Ma il cielo fa festa a chi riconosce e confessa il proprio errore. ILPRINCIPIOGUIDA. Non vi sono dubbi. Quando una persona sottomette la sua morale alla parola di Dio, quando permette che sia giudicata, quando osserva le conseguenze delle sue azioni e confessa ciò che ritiene sbagliato, realizza il principio guida che gli permette di utilizzare in modo corretto le altre leggi, l'amore. E l'amore che rende valide le altre leggi. E, mediante l'amore che noi interpretiamo ed usiamo giustamente le tre leggi che l'Eterno Dio ci ha dato, quella personale, quella civile e religiosa. L'amore è quindi una legge, nel senso che è una norma di condotta, un principio, e in questo senso è la legge che regola le altre leggi. E la legge dell'amore è amare Dio e il prossimo come noi stessi. Perciò, dobbiamo guardarci dal fare del male a noi stessi e al prossimo. Se questo principio guida è presente in ogni azione, allora avremo, in ogni settore della nostra vita, l'approvazione da parte degli uomini e, più di questo, da parte di Dio. La vita di coppia, di chiesa, l'educazione dei figli, i problemi sessuali, il nostro rapporto con il mondo dovranno essere visti attraverso la lente dell'amore. E l'amore che, dal principio, alla fine adempie la legge. Essa prescrive l'azione, ma è l'amore che costringe e spinge all'azione richiesta. Queste riflessioni sono un appello alle nostre coscienze. Dio ci chiede di camminare davanti a Lui e verso il prossimo in pura coscienza. Su questi due binari corre la nostra vita e si esprime la nostra morale. Però, mentre un rapporto con Dio può alla fine rimanere un'etica soggettiva, non lo è invece per quanto riguarda il rapporto con il prossimo. Anzi, il mio comportamento verso il prossimo determina la sincerità del mio rapporto con Dio. L'Apostolo Giovanni osserva a riguardo: se uno dice «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. 1 Giovanni 4,20. Ancora una volta il Dio della parola sostiene che dobbiamo valutare la nostra coscienza in rapporto con il prossimo. Proprio per questa insistenza da parte di Dio possiamo fare la seguente dichiarazione. Il più grande comandamento verso il prossimo non è di camminare in pura coscienza, ma di amarlo come noi stessi. Amare il prossimo a volte significa fare cose che sono contrarie a ciò che ritengo giusto. Ma quando la mia ragione mi dice che ho amato il prossimo, cioè ho cercato il suo bene, la sua edificazione, il suo progresso, allora non ho nulla da temere. Quando Paolo volle Timoteo come suo collaboratore a causa dei giudei, lo circoncise benché egli fosse convinto che questo non servisse a nulla. Atti 16:3. Più tardi, a Gerusalemme osservò dei riti giudaici per accontentare alcuni credenti, anche se sapeva che tali riti erano inutili. Atti 21, 17-26. Pur di rimanere coerente con lo scopo di Dio, termina Rinaldo di Prose le sue riflessioni sulla unità cristiana che tendeva a salvare l'umanità mediante il Vangelo, Paolo scelse di essere culturalmente incoerente. Proprio per questo modo di comportarsi Paolo non era capito, anzi, molto probabilmente era una di quelle ragioni perché il suo apostolato non veniva apprezzato, egli non era tutto di un pezzo. E il sapere di aver fatto la volontà di Dio che deve rendere serena la nostra coscienza, non è la coscienza a rendere serena se stessa. La coscienza e i sentimenti. Se vi è un conflitto che turba i cristiani, è quando la loro coscienza va contro i loro sentimenti. Non è certamente un problema da poco, perché i comandamenti di Gesù ci spingono a realizzare tale conflitto. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, meno. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5, 43-48. Amare è già di per sé difficile, amare poi un nemico, colui che ti perseguita e verso il quale non provi sentimenti positivi, diventa veramente un dramma. Il problema sorge perché noi abbiamo identificato l'amore con i sentimenti. Una lettura attenta del discorso di Gesù ci fa notare che egli non ci invita di provare dei sentimenti di affetto verso i nostri nemici, ma di agire in senso positivo nei loro riguardi. Benedire, pregare, salutare, fare del bene. Ora, questi atteggiamenti non necessitano di sentimenti di affetto, ma solo di obbedienza. L'amore per Dio e per il prossimo rimane comunque un comandamento, si pratica in obbedienza al precetto amerai. Se poi l'Eterno Dio ci dà la grazia di provare dell'affetto, faremo la nostra opera molto più volentieri, altrimenti avremo lo stesso atteggiamento di Paolo. Perché, se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità men è imposta, e guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente ne ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente è sempre un'amministrazione che mi è affidata. 1 Corinzi 9, 16-17. Anche Paolo ha sperimentato che i suoi sentimenti potevano non andare di pari passo con l'opera che compiva, ma dal momento che evangelizzare era un dovere portava comunque a termine il suo compito. Agire contro e nonostante i propri sentimenti significa aver raggiunto una certa maturità psichica, emotiva e spirituale. Un cristiano libero e maturo è colui che vive al di sopra dei propri sentimenti. Forse per questo sono pochi coloro che sanno ferire per amore, Proverbi 27:6, perché si pensa che l'amore non debba mai colpire, mentre l'Eterno stesso invita a riprendere il prossimo. Come può del resto un padre educare il figlio senza farlo soffrire? Se i cristiani degli ultimi tempi non sanno dare una giusta dimostrazione dell'amore, non possono pretendere che chi non conosce Dio impari ad amare. Cos è l'amore? Ma in che cosa consiste l'amore? E, forse una domanda banale, retorica o d'obbligo, non mi sembra che esista al giorno d'oggi una domanda più importante e una risposta più impellente. In America, una donna ha annegato i suoi due figli al fine di sposare per amore un uomo. Una coppia filmava i figli minorenni mentre erano da loro obbligati a picchiarsi. Alla richiesta del loro movente, la inopinata risposta: lo abbiamo fatto per amore. In Italia, per amore, un uomo brucia le braccia a suo figlio per insegnargli ad ubbidire, mentre gli integralisti islamici, sempre per amore, seminano morte e distruzione. Dobbiamo essere onesti, noi non sappiamo più che cosa significhi amore e amare. Sono parole che hanno perso il loro significato originale al punto che, come abbiamo visto, nel suo nome si tradisce, si vendica, si uccide, si commettono le cose più turpi. E non solo. La mancanza d'amore, come l'odio, non si evidenzia sempre così facilmente, al punto che anche persone di levatura di pensiero e di spiritualità, come C.S. Lewis, si pongono nei loro scritti il problema se veramente hanno amato o amano. Il dizionario definisce l'amore come un sentimento di viva affezione verso una persona che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercare la sua compagnia. Definizione ottima ma incompleta perché, come abbiamo considerato, l'amore non può consistere in un sentimento, anche se lo produce, nemmeno in un desiderio di, anche se lo contiene, perché sia i sentimenti che i desideri sono corrotti. Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra intelligenza è offuscata, il nostro sentimento ingannevole, la nostra coscienza corrotta e la nostra volontà pervertita. E, molto nota e significativa la domanda del profeta Geremia, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17:9. Come cristiano, quindi, sono costretto a lasciare ogni definizione umana ed esaminare la persona di Dio, perché solo Dio è amore. Noi scopriremo cos è davvero l'amore solo quando permetteremo a noi stessi di sbarazzarci di tutti i concetti assorbiti provenienti da fonti non cristiane e cercheremo di conoscere solo Dio. Solo in Lui e nelle Sue azioni scopriremo il vero significato dell'amore. Quando i cristiani affermano che il Dio Trino è amore, si riferiscono alla Sua essenza, senza la quale Egli non potrebbe esistere. In che cosa consiste l'amore di Dio? Quando ho posto ad alcuni questa domanda, ho ricevuto varie risposte. Per alcuni l'amore del Dio Trino consiste nell'averci creati, per altri nell'averci dato tante benedizioni in questa vita, per altri ancora nella possibilità di conoscerlo. Per molti cristiani l'amore di Dio consiste nell'averci dato suo Figlio. Ma leggendo attentamente le scritture notiamo che l'offerta di Dio nel darci Gesù dimostra o manifesta il suo amore, 1 Giovanni 5:9, Romani 5:8, ma non spiega in che cosa consista. L'apostolo Giovanni nella sua prima lettera fa un'affermazione unica. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. 1 Giovanni 4:10. L'amore di Dio consiste quindi nell'averci amati per primo, nell'aver deciso di amarci, nell'aver preso l'iniziativa di offrire suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Una volta presa questa decisione secondo la sua volontà, creare l'uomo, dargli tante benedizioni, farsi conoscere e mandare suo Figlio, sono stati gli effetti del suo amore. Se Dio ci ha tanto amati, continua l'Apostolo, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ecco come si deve amare il prossimo e in che cosa consiste l'amore, come Dio. Prendere l'iniziativa, decidere, determinare di voler far del bene al prossimo, cercare quello che contribuisce al suo progresso. Tutto il resto è la conseguenza di tale iniziativa, che può esprimersi nel chiedere scusa, perdono, nel riallacciare dei rapporti incrinati, in una telefonata, in un invito a pranzo, o nel fare una passeggiata, scrivere una lettera, nel sopportare, fare una visita, pregare per lui. Che vi siano sentimenti o no, che vi siano desideri o no, quando si decide una cosa la si porta a termine. Il vero amore è seguito sempre da un verbo che esprime un'offerta. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Ogni altro gesto d'amore che non segue queste tracce è fasullo, è il negativo del vero, è falso amore. Dobbiamo credere più alla Scrittura che alle nostre convinzioni o sentimenti. L'amore consiste nel decidere di fare del bene al prossimo. Nonostante questo principio, l'amore è ancora esposto al pericolo di sbagliare. Osservando coloro che mi circondano, che agiscono con giusti moventi, ma producono risultati negativi, come posso io sapere se, pur motivato dall'amore, faccio il bene del mio prossimo? Ancora una volta Gesù ha detto quello di cui avevamo bisogno: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7:12. In questo principio è racchiuso il segreto del giusto comportamento dell'amore. Agire con gli altri come si desidera che si comportino con noi. Ecco allora che i valori del cristianesimo pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, sincerità, onestà saranno interpretati alla luce di questo principio. Il comportamento che attendo dal prossimo nei miei riguardi deve essere la regola per rapportarmi con lui. Oltre questa regola trovo solo del buio. LAMORALEDECRISTIANIDIOGGI. Come ho affermato all'inizio del mio scritto, affrontare l'argomento della coscienza è uno dei più difficili che esistono e lo abbiamo constatato nello sviluppare questo tema. Se l'uomo è un essere principalmente morale, quanto più deve esserlo il cristiano, perché questa è la sua principale vocazione. Siate santi, dice l'Eterno, perché io sono santo. Levitico 11:44. Ma essere santi rimane uno degli aspetti più difficili della vita, perché il cristiano, nell'esprimere la sua santità, può commettere due errori: avere una sua morale o fare del moralismo. Le nostre riflessioni hanno messo in evidenza una realtà: non si nasce con la morale di Dio, essa si acquista poco alla volta e con fatica. Noi non possiamo pensare la moralità di Dio, possiamo solo accettarla. Nessuno di noi manderebbe una sciagura su di una città dove molti innocenti, tra donne e bambini, muoiono e soffrono ingiustamente. Tantomeno nessuno di noi lascerebbe per l'eternità soffrire qualcuno all'inferno. Quando diciamo che il Dio trino è giusto, vogliamo sottintendere che egli è moralmente giusto. Sia l'opera che la motivazione sono moralmente ineccepibili. Chi predica l'Evangelo predica un'etica non sua che ha accettato per fede e che presenta come l'unica giusta. Il cristiano adulto è quindi colui che ha accettato la morale di Dio e colui che non ha una sua morale derivante dalla sua cultura, ma quella che scaturisce dalla Scrittura. Un cristiano non può fare a meno di valutare l'aspetto morale delle cose, ma quando questa valutazione pesa su qualsiasi questione o situazione, si cade in una fobia di santità e di giustizia, cioè nel moralismo. Il dizionario enciclopedico italiano definisce un moralista chi per naturale carattere, per cultura o per educazione è portato ad esaminare il lato o l'aspetto morale di qualsiasi questione o situazione. Ancora, tendenza a dare prevalente o esclusiva importanza a considerazioni morali nel giudizio su persone e fatti della vita, della storia, dell'arte, eccetera. Un esempio di moralismo lo abbiamo nell'episodio degli abitanti dell'isola di Malta, raccontato dall'Evangelista Luca nel libro degli Atti. Quando le 276 persone della nave dove si trovava Paolo fece naufragio, gli abitanti dell'isola, come fece notare Luca, li accolsero con una bontà non comune. Questo già ci rivela il carattere morale degli abitanti dell'isola. Ma quando videro Paolo morso da una vipera, dissero fra loro: certamente quest'uomo è un omicida, perché, pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. In seguito, quando videro che non ne subiva conseguenze, pensavano che egli fosse un dio. Atti 28:1-6. Così si comporta il moralista. Deve trovare in ogni situazione della vita una risposta morale. Proprio per questo molti cristiani vivono un cristianesimo di angoscia, con sensi di colpa, che impongono poi sugli altri. Ogni sventura o contrarietà viene e deve essere spiegata dal punto di vista morale, mentre la Scrittura afferma: nel giorno della prosperità godi del bene, e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ecclesiaste 7:14. Questo significa che il giorno dell'avversità fa parte dei piani di Dio. E l'uomo è invitato a riflettere più che a dover trarre conclusioni morali. È per questo che l'Ecclesiaste considera: quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio. E ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione. Non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. Ecclesiaste 8, 16, 17. Dobbiamo accettare che, come per Giobbe, vi sono dei retroscena che non conosciamo e non conosceremo mai in questa vita. Perciò, una volta fatto un eventuale esame di coscienza, siamo chiamati a vivere nella gioia e nella pace di Dio. Una delle ragioni di queste riflessioni è proprio quella di invitare i cristiani a vivere una vita non soffocata dai sensi di colpa e dal moralismo. Se il cristiano non si libererà da questi pesi, Ebrei 12, 1, condizionerà i suoi approcci nei confronti del mondo e della cultura. Alcuni cristiani considereranno tali cose come un nemico o peccato ed eviteranno qualsiasi forma di contaminazione separandosi da esse. Altri, considerandosi debitori verso il mondo e la cultura, accetteranno certi presupposti. Eppure Gesù non è caduto in nessuno di questi estremi. Egli ha considerato, quando lo riteneva opportuno, i detti del mondo saggi e veritieri, Giovanni 4 e 37, Luca mezzogiorno e 46, come pure l'Apostolo Paolo, Atti 17 e 28, 1 Corinzi 15 e 33. Mentre ha sempre condannato severamente ogni atteggiamento di ribellione verso Dio. Il vero Evangelo rivela l'errore senza procurare il terrore. Come la gioia e la pace per il cristiano devono scaturire da motivazioni bibliche, così la colpevolezza di un'azione deve nascere dalla consapevolezza di aver trasgredito la legge di Dio. Se il peccato è la violazione della legge di Dio, la colpevolezza del cristiano è condizionata alla trasgressione di essa. Ogni sentimento di colpa che non scaturisce dalla Scrittura è da ritenere una tentazione del maligno. Spesso il lavoro di Satana è farci sentire colpevoli di ciò che Dio ha perdonato, impedendo al cristiano di correre con gioia e riconoscenza. Dovremmo tutti renderci conto che non esiste nulla a livello di puro, di perfetto. La stessa parola di Dio che abbiamo nelle mani, quella che noi chiamiamo santa o sacra Bibbia, ne è un esempio. Essa contiene degli errori, non nella sua stesura originale, ma dovuti ai copisti e traduttori. Anche quando considero le vie di Dio dal punto di vista morale, rimango meravigliato. Il popolo che Dio si è scelto ha per capostipite un uomo che ha sposato una sua sorellastra, che per la legge dell'Eterno tale atto è un'infamia. Abramo viene chiamato il padre della fede quando, per mancanza di fede, ha mentito più volte e cercato un figlio dalla sua serva. L'Eterno scelse tra le 12 tribù di Israele quella di Giuda, da dove sarebbe nato Gesù Cristo. Quel Giuda che ebbe relazione con sua nuora, la quale si era presentata a lui come prostituta. Mosè, l'uomo di Dio, nasce da una relazione tra Jochebed e sua zia. L'Eterno, nell'emanare la sua santa legge, permette il divorzio e la schiavitù. Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, è tristemente famoso per il censimento, il tradimento di un amico, l'adulterio e l'omicidio. Cristo Gesù sceglie Pietro, quel Pietro che in seguito lo rinnega apertamente. Cristo sceglie Paolo come il dodicesimo apostolo, lui che ha perseguitato la Chiesa di Dio. Nella genealogia di Gesù abbiamo alcune donne veramente scomode o indegne. Una prostituta, Rab, una donna moabita, da cui legge ebraica vietava categoricamente di entrare nell'assemblea del Signore, Ruth, Tamar, un'aramea, Batseba, una ittita. La mia morale avrebbe indotto a scegliere Giuseppe per rappresentare la tribù del Salvatore, a cercare uomini con un comportamento ineccepibile, come Daniele il profeta. Ma soprattutto non avrei permesso che nella genealogia di Gesù ci fossero donne non ebree con una reputazione così bassa. Ho fatto queste considerazioni per portare il lettore a comprendere che anche l'amore, la giustizia, la santità si muovono su terreni imperfetti, perciò a volte è difficile per noi esseri umani, se non impossibile, agire senza violare qualche regola morale. Lo abbiamo constatato nel caso della legge di Dio. E nell'episodio del mio incidente, dove il poliziotto ha dovuto mentire perché mi fosse fatta giustizia. Perciò un moralista, che dà precedenza all'aspetto morale, spesso lo fa a discapito dell'aspetto umano. L'aspetto del divorzio ne è un esempio. Coloro che non accettano che vi siano seconde nozze per nessuna ragione, condannano uomini a rimanere per tutta la vita senza una donna, anche se Gesù ha detto chiaramente che nessuno può rimanere senza moglie a meno che non abbia avuto un dono particolare da parte di Dio. La differenza che passa tra l'essere morale e fare del moralismo è simile a quella che c'è, è tra ortodossia ed eresia. Eretico non è sempre colui che è fuori dalla verità, ma che ne estremizza certi aspetti. E, valido più che mai l'invito dell'Ecclesiaste, non essere troppo giusto e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme? Dio infatti evita tutte queste cose. Ecclesiaste 7, 16-18. Un moralista fa fatica, proprio perché è coerente con i propri principi morali, ad essere un po' empio o un poco stolto. Perciò, piuttosto di cadere in questo errore, cade in quello opposto, cioè quello di essere troppo giusto o troppo saggio. Solo chi teme l'Eterno Dio ha una morale senza cadere nel moralismo. Un cristiano che accetta di essere imperfetto tra esseri imperfetti in un mondo imperfetto non pretenderà relazioni perfette. Contrariamente a quanto viene insegnato in certi ambienti, lo scopo principale di Dio non è togliere il male o l'ingiustizia, ma che il giusto e il malvagio crescano insieme. Matteo 13 e 30. Ciò rende la convivenza non solo difficile, ma composta anche di compromessi. Per compromessi non intendo sostenere che il cristiano debba recedere parzialmente ai suoi principi o avere espedienti non sempre o non in tutto onesti, ma che al momento dell'applicazione pratica egli tenga presente il contesto e la fragilità umana. La vita non è in bianco e nero, e trovare una forma di accordo fra le opposte esigenze di due parti in contrasto può essere un atto di amore e non per forza sincretismo. Come se ciò non bastasse, la nostra natura contraddittoria aumenta le difficoltà nelle relazioni. Scrive a proposito lo psicologo Paul Tournier nel suo libro La nostra maschera e noi. Un uomo viene tacciato per vanitoso, mentre cerca solo di compensare senza riuscirvi completamente i suoi dubbi su se stesso e i suoi complessi di inferiorità. Un altro è ammirato per la sua dedizione al dovere mentre sfugge alle responsabilità più semplici e vicine a lui. Un altro, sempre compassato e serio, ha delle manie infantili che nasconde con cura. Ci sono persone che in casa si fanno servire come dei pascià, mentre fuori si dedicano agli altri. Uomini silenziosi in casa sono ciarloni fuori. L'esistenza di alcuni non è che un perpetuo alibi. Alcuni passano tutta la loro vita a difendersi da tutti. Sì, noi dissimuliamo la nostra persona dietro una barriera protettrice. Non la lasciamo vedere che attraverso le sbarre. Ne mostriamo alcuni aspetti e ne nascondiamo con cura altri. E di se stesso scrive con la solita sincerità che lo contraddistingue. In Match è l'individuo tormentato ed inquieto, pieno di dubbi su se stesso e su tutto, che conosce le angosce, le incertezze, le disfatte che i miei ammalati mi confessano. In Match è il credente incrollabile, che ha sperimentato solidamente la grazia di Dio e che ne fa con convinzione la testimonianza. In Match è colui che vuole riconoscersi e dimostrarsi qual è chiaramente. E C è anche colui che persino in questa rappresentazione di sincerità vuole pavoneggiare. In me C è il dottore che crede appassionatamente nella medicina e che si slancia con ardore in soccorso degli altri. Ma C è pure l'egoista e lo scettico che vorrebbe rifugiarsi in una capanna solitaria. Credo che sia questa una delle ragioni del perché la Bibbia narra avvenimenti positivi e negativi dei grandi uomini di Dio. Elia, uno dei più coraggiosi profeti, fugge per salvarsi la vita davanti alle minacce di una donna. Davide, la cui spiritualità è indiscussa, compie crimini da re malvagio. Acab, il re più empio di Israele, si umilia davanti all'Eterno al punto che Dio esaudisce una sua preghiera. Pietro, uno dei discepoli più coraggiosi e consacrati, rinnega Gesù alla prima prova. Pretendere relazioni perfette, leggi perfette, è dunque utopia. Quando un governo emana una legge, non può essere a favore di tutti perché tutti non possono avere diritto a tutto nello stesso momento, Come non può esistere un matrimonio perfetto perché occorre convivere con alcuni limiti del coniuge e nessuno può soddisfare tutti i nostri desideri. Avere dei sensi di colpa perché il matrimonio non lo si vive nel modo ideale o perché le relazioni fraterne hanno delle ombre mi sembra fuori luogo. Noi siamo tutti imperfetti e perciò la nostra capacità di rendere altri felici o di essere felici è imperfetta. Molti rapporti fraterni, di coppie sociali, migliorerebbero se non vi fosse nell'intimo di certi cristiani la pretesa della perfezione. Come disse qualcuno, la moglie perfetta è quella che non si aspetta un marito perfetto. Ciò non toglie però che si possa avere un felice matrimonio imperfetto. Il cristiano deve avere l'obiettivo di vivere pienamente ogni promessa di Dio, ma deve altresì accettare la relatività della vita perché ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Ecclesiaste 1:15. Tendere al perfetto senza sensi di colpa. Questa è la vita cristiana. Come il vero diamante per essere puro non è perfetto, così una vera armonia con Dio e con il prossimo non è composta di elementi senza difetti. Forse è questo ciò che voleva intendere chi ha detto: non sarai mai un santo se non imparerai a convivere con quel poco di diavolo che ci è in te. E questo perché non ci è luce senza ombra. LAMORALADEIPRIMICRISTIANI. Come un fiume, più si allontana dalla sorgente, più è esposto all'inquinamento. Così è per la morale dei cristiani. Spesso mi sono chiesto che tipo di morale avevano i primi cristiani. Perciò ho trovato molto interessante due documenti. Il primo è una lettera scritta a Dionieto Vero il 150 d.C., edizione di H.I. Marrou, Parigi 1951. Il secondo è il famoso trattato di Tertulliano in difesa dei cristiani, dove tratta le attività della fazione cristiana. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero degli uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche o barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo, nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come forestieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene, vengono puniti come malfattori. Condannati, gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati. E coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. A dirla in breve, come l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. Noi ci riuniamo in assemblea ed in congregazione per assediare Dio con le preghiere, quasi battaglione serrato. Questa violenza piace a Dio. Preghiamo anche per gli imperatori, per i loro ministri e per le potenze, per la prosperità del mondo, per la pace universale, per l'aggiornamento della fine del mondo. Ci riuniamo per commentare le sacre scritture. Presiedono tali adunanze degli anziani di provate virtù, che tale onore, non per denaro ma per la pubblica testimonianza, hanno acquisito, giacché Nulla si può avere con denaro delle cose di Dio. Non ci si adagia prima di aver pregustato una preghiera a Dio. Si mangia quanto la fame richiede, si beve quanto è permesso dalla castigatezza. Ci si satolla come chi deve ricordare che anche la notte è destinata all'adorazione di Dio, si parla come chi sappia che Dio lo ascolta. Dopo lavate le mani e accesi i lumi, ognuno è invitato davanti a tutti a levare un canto in onore di Dio, come può, tratto dalle sacre scritture o dal proprio spirito. Allora appare come si sia comportato nel bere. La preghiera parimenti chiude il convito. Noi siamo gli stessi, riuniti come separati, tali nell'insieme quali da soli. La morale dei primi cristiani era notata da tutti. Essi non si comportavano sempre secondo i principi della società perché avevano un'etica superiore ad ogni legge civile e religiosa derivava dalla parola di Dio. La loro vita era una risposta all'amore di Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. 1 Giovanni 4 e 19. In definitiva i primi cristiani erano esseri morali, ma non moralisti. Gli ebrei avevano ricevuto da Dio la santa legge che creava nella coscienza delle persone la giusta morale, ma purtroppo con la tradizione avevano non solo deviata la coscienza, ma l'avevano appesantita con moralismi religiosi. E non va dimenticato che tutto questo procedeva da un attaccamento alla scrittura. Col passare dei secoli si ripetono gli stessi errori. Ho l'impressione che anche oggi, molti di coloro che insegnano la scrittura, la filtrino con la relativa morale personale, civile e religiosa. I ministri di Dio hanno bisogno di liberarsi da concetti e preconcetti moralistici e di ritornare alla sola morale della scrittura. Questa è certamente una delle imprese più difficili per un cristiano e, a mio avviso, la sfida più grande e importante della Chiesa del XXI secolo. Ma il risultato sarà inestimabile ed eterno. CONCLUSIONE. Ho scritto con il cuore in mano. Queste riflessioni sono state imposte da tutto quello che mi circonda. Violenza, omicidi, autoritarismo, soprusi, pornografia, droga, stupri, pedofilia. È evidente che in coscienza si possono compiere azioni sbagliate, ma di azioni sbagliate ve ne sono di due tipi, attive o passive. Quelle attive possono essere racchiuse nell'affermazione di Gesù, già citata. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Quelle passive possono essere rappresentate dall'atteggiamento degli apostoli, i quali rifiutarono di ubbidire alle autorità religiose. Come si nota, la differenza è enorme. La coscienza attiva, se sbaglia, produce del male al prossimo, quella passiva rivendica la verità non infliggendo sofferenza all'avversario, ma a se stesso. Se ami veramente Dio e il prossimo come te stesso, non imporrai mai la tua coscienza in nessun modo, ma ti limiterai a sostenere fermamente le tue convinzioni etiche, come nel caso di Lutero citato all'inizio delle nostre riflessioni. L'argomentazione coraggiosa e l'affermazione franca e chiaramente espressa vanno bene, ma non la coercizione. Chi testimonia condivide, non impone, suggerisce, non insiste. Non solo. Quando Gesù disse tutte le cose, dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti, non limitava il cristianesimo alla non violenza, ma esigeva che i suoi seguaci vincessero il male con il bene, perché l'ingiustizia non lascia apatia. O ami o odi, può darsi che tu non ottenga tutto ciò per cui paghi, ma devi certamente pagare ciò che ottieni. La verità cristiana è una verità crocifissa. Gesù e tutti i suoi seguaci, i veri cristiani, non hanno mai imposto a nessuno la morale evangelica, ma andavano ovunque, a costo della propria vita, a operare il bene e predicare la verità, Gesù Cristo. Lascia al Dio Trino il diritto di compiere negli altri l'opera di santificazione. Il problema della sofferenza, C.S. Lewis, edizioni G.B.U. giugno 1988. Scusi, qual è il suo Dio? Lasse Lewis, edizioni G.B.U. novembre 1981. L'abolizione dell'uomo, L'abolizione dell'uomo, Lento Arandotiri. 1979. Riflessioni cristiane, C.S. Lewis, Gribaudi, 1997. Problemi di vita, 1984. Lentorla, 1967. Medicina della persona, Paul, T.O.U.R.N., Bennett Claudiana, aprile 1969. Compendio del pensiero cristiano nei secoli, Tony Lane, Voce della Bibbia, 1992. Che cosa è il Nuovo Testamento e S.I.M.O. Roland De Puri, editrice Claudiana Torino, 1964. Le origini E.L.A. Morale, John L.E.N.N.O.X. e David Gooding, Lux Biblica, novembre 1999. L.A. Parola di Dio e L.A. Ragione Umana, Emil Brunner, Clau. Veritas Edizioni, settembre 1992. L.A. Via del Calvario, Roy e S.S.I. Omar Tsemihai, Voglio Lui dell'Extonizian, Mrichar Bemulopotexilier, I. Nuri, 1 marzo 1963. Cristo Marzo Mihai, VRM BRAND, E. 1 marzo 1989. Voglia di tenerezza, Gerard H.U.R. Casa Biblica Vicenza, 1989. Il figlio della pace di Richardson, Edizioni Centro Biblico, 1989.